Platone, il Parmenide. Cefalo racconta: arrivati ad Atene da Clazomene, dove stiamo di casa, abbiamo incontrato in piazza Adeimanto e Glaucone. Adeimanto mi prese la mano ed esclamò: ti saluto, o Cefalo, se hai bisogno di qualche cosa che sia in nostro potere, parla pure. Ma sì, risposi, sono qui per questo motivo appunto, perché ho bisogno di voi. Fammi dunque il favore di dire il tuo desiderio. E allora cominciai. Tuo fratello per parte di madre, che nome aveva? Non me ne ricordo più. Doveva essere un ragazzo quando, la prima volta, venni a stare qui da Clazomene. Sono tanti anni ormai. Suo padre, mi pare, aveva nome Pirilampe. Perfettamente, rispose. E lui? Antifonte. Ma perché mi domandi questo? Costoro, risposi, sono miei concittadini, filosofi nel vero senso della parola. Hanno udito che il nostro Antifonte ebbe modo di incontrarsi sovente con un certo Pitodoro, amico di Zenone, e che Antifonte, per averli uditi più volte da Pitodoro, ricorda bene i ragionamenti che Socrate, Zenone e Parmenide svolsero un giorno discutendo insieme. È vero, diceva. Ebbene, continuai, ci piacerebbe udirli completi, questi ragionamenti. E lui, non è difficile. Quando era giovinetto ne ha fatto continue esercitazioni e molto accurate, sebbene ora, come il nonno di cui porta il nome, trascorra le sue giornate occupandosi per lo più di equitazione. Ma, se hai bisogno, andiamo pure da lui. Poco fa era qui e ora è andato a casa. Abita a Melite, non lontano di qui. Detto questo, ci siamo messi in via e trovammo Antifonte a casa mentre dava un freno a un fabbro perché lo adattasse. Appena ebbe finito, i suoi fratelli gli dicevano per quale motivo eravamo venuti. Allora gli venne in mente di me e del mio soggiorno ad Atene. Mi strinse cordialmente la mano e alle nostre preghiere di ripetere quei ragionamenti, dapprima si mostrava un po' dubbioso e diceva che era una fatica troppo grande. Poi, finalmente, si accinse all'esposizione. Secondo dunque la versione di Antifonte, Pitodoro gli aveva narrato che un giorno, in occasione delle grandi Panatenee, erano venuti Zenone e Parmenide, e che Parmenide era ormai un uomo assai maturo, tutto bianco il capo, bello e d'aspetto venerando, circa 65 anni al massimo. Zenone, invece, sulla quarantina pressa poco, alto di persona e gentile di figura, lo si diceva il favorito di Parmenide, e che i due personaggi avevano preso dimora in casa di Pitodoro, fuori delle mura, al Ceramico. Diceva Pitodoro che Socrate un giorno si recò a casa sua, che con lui c'erano molte altre persone desiderose di sentire le novità di alcuni scritti che Zenone e il suo maestro allora per la prima volta avevano portato in Atene, e Socrate era allora assai giovane. Zenone dunque, in persona, fece la lettura e Parmenide si trovava fuori di casa. Restava ancora ben poco da leggere quando, diceva Pitodoro, ecco sopraggiungere dal di fuori lui stesso, Pitodoro, Parmenide con lui e Aristotele, quello che poi fu uno dei 30. E stettero tutti ad ascoltare quei pochi argomenti che ancora mancavano. Socrate, dunque, dopo aver attentamente ascoltato, pregò che gli si leggesse una seconda volta la prima ipotesi della prima argomentazione, il che fu fatto. Quindi cominciò. «Come intendi, o Zenone? Vuoi dire che gli enti, se sono molti, debbono pure essere simili e dissimili, il che è impossibile? In realtà non è possibile né che il dissimile sia simile né il simile dissimile. Non dici così? Così, sì, rispose Zenone. In conseguenza, se è impossibile che le cose dissimili siano simili e le cose simili dissimili, è pure impossibile che siano molte. Il fatto è che, se fossero molte, dovrebbe verificarsi questa impossibile condizione. Non tendono forse a questo punto le tue ragioni? Non forse a sostenere, contrariamente al comune linguaggio, che la molteplicità non esiste? E appunto tu credi che ciascuna delle argomentazioni da te proposte sia prova sicura della tua tesi, in guisa che, secondo te, quante le argomentazioni che hai scritto, altrettante sono le prove per dimostrare che la molteplicità non esiste. Intendi così o sono io che non capisco bene? No, anzi, rispose Zenone, hai inteso bene quale sia la tesi di tutto quanto il libro. E Socrate allora? Capisco bene che il nostro Zenone non solo vuol stare vicino a te, o Parmenide, con ogni segno d'amicizia, ma anche con la sua opera di scrittore. In realtà, sotto un certo aspetto, Zenone ha scritto quello che hai scritto tu e, introducendo soltanto qualche cambiamento, cerca di trarre il lettore in inganno, quasi dicesse cosa diversa. Perché nei tuoi poemi tu affermi che il tutto è uno e ne porti prove sicure e opportune. Egli invece, per conto suo, nega che la molteplicità esista e anche lui sostiene la sua tesi con numerose e sicure prove. Ora, tu affermi l'uno e Zenone nega la molteplicità, ma vi esprimete in tal guisa, tu e Zenone, da non far sembrare che la vostra tesi sia la stessa, mentre dite, né più né meno, la medesima cosa. Ecco, insomma, un'abilità straordinaria che supera le capacità di noi profani. Poi Zenone rispondendo, «Sì, Socrate, ma il vero intendimento del mio scritto non lo hai inteso bene. Eppure è un fatto che, come i cani della Laconia, ne vai abilmente braccando e perseguendo ogni pensiero e ogni parola. Intanto il mio libro, in modo assoluto, non vuole fare il superbo e nascondere alla gente la propria tesi facendola apparire come grande e nuova. Ma quelli che hai trovato sono sviluppi accessori. Il fine vero della mia opera è di sostenere la dottrina di Parmenide di fronte a quanti cercano di criticarlo con poco riguardo, a quanti affermano che se uno è, l'argomentazione cade in conseguenze strane e a se stesse contrarie. Sta attento, questo mio scritto ribatte la tesi di chi afferma che la molteplicità esiste e arriva a dare a questi signori il giusto ricambio e anche di più. Dico infatti che in ben più strane conseguenze cadrebbe la loro tesi se molteplicità esiste, più strane dell'altra, la tesi l'uno è. Naturalmente, per chi può abbracciare l'intero problema. Il libro, insomma, fu composto per generoso impulso ed è un'opera giovanile. Un amico poi, quando l'ebbi scritto, me lo portò via e non potei nemmeno decidere se conveniva o meno farlo conoscere. In questo senso, dunque, ti inganni, o Socrate, tu credi che il libro non sia stato scritto da un giovane con spirito generoso e battagliero, ma che sia dovuto all'ambizione di un vecchio. In quanto al resto, come ti dissi, non hai colto male la tesi del mio libro. Va bene, concluse Socrate, penso che sia veramente come dici. Quindi continuò, dimmi una cosa. Non credi tu che esista nella pura oggettività un'idea singola e una di simiglianza? E a questa contraria un'altra idea, pur singola e una, la dissimiglianza? E io e tu, e tutte le altre cose che affermiamo molte, partecipiamo di queste due idee. E non credi che le cose partecipanti alla simiglianza siano simiglianti, secondo il grado e il rapporto della partecipazione? Quelle invece che partecipano alla dissimiglianza sono dissimiglianti e quelle che partecipano all'una e all'altra idea hanno ambedue le qualità. E ti par forse strano se le cose che partecipano all'uno e all'altro contrario, appunto perché partecipano all'uno e all'altro, siano tra loro simili e dissimili? Perché se il simile impartecipato, l'idea del simile, insomma, la si dimostrasse che diviene dissimile, oppure il dissimile simile, allora sì, il mio sarebbe stupore grande. Ma se invece mi si dimostra che le cose partecipanti all'una e all'altra idea risentono dell'una e dell'altra, non credo, o Zenone, di dover provare per questo meraviglia alcuna. Nemmeno, vedi, se mi si dimostri che l'insieme degli esseri è uno, in quanto dell'uno hanno parte, e che questi stessi esseri sono poi molti in quanto partecipano della molteplicità. Ma se costui mi darà dimostrazione che l'uno nella plenitudine dell'essere, questo appunto è molti, oppure che i molti reciprocamente sono uno, allora sì che l'affermazione desterebbe la mia meraviglia, e lo stesso vale per qualsiasi altra idea. Se ci si potesse insomma dimostrare che nella loro purezza i generi e le specie sopportano in sé tale urto di contrari, questa sarebbe impresa degna di tutto il nostro rispetto. Ma se si dimostrerà che io sono uno e molteplice, che cosa c'è di strano? Si dirà, quando si voglia dimostrare che io sono molteplice, altro è il tuo fianco destro, altro il tuo fianco sinistro, altra la tua parte di fronte, ed altra quella delle spalle, e così l'alto e il basso. È un fatto indiscutibile che io sono partecipe della pluralità. Quando al contrario si potrà dimostrare che io sono uno, si dirà allora, tra noi che siamo sette, tu sei uno, un uomo partecipe pure dell'unità, e in questo modo si dimostra vera l'una e l'altra ipotesi. In conclusione, se qualcuno vuol dimostrare che cose di questo genere, pietra, legna e simili, sono nello stesso tempo molteplici e une, diremo che dimostra l'esistenza di cose molteplici e une, non tuttavia dimostra che l'uno è multiplo, né che il multiplo è uno. E questa sua spiegazione non dimostra nulla di nuovo, ma cose su cui siamo tutti d'accordo. Al contrario, se cominciasse a distinguere separate nella loro oggettività le idee di cui ora parlavo, similianza, dissimiglianza, pluralità, unità, quiete, moto e simili, quindi potesse dimostrare che queste idee tra loro possono commischiarsi e separarsi, allora, o Zenone, a costui vorrei proprio attribuire intero il mio applauso. La tua tesi, capisco, è trattata con molto vigore, ma, ripeto, la mia completa ammirazione vorrei riservarla per chi riuscisse a dimostrare che questa misteriosa qualità si trova per ogni guisa in queste idee. E quanto voi affermaste per gli oggetti visibili, così egli l'affermasse anche negli oggetti che l'uomo attinge per mentale operazione. Mentre Socrate faceva queste osservazioni, Pitodoro raccontò che s'aspettava di vedere ad ogni frase in Parmenide e in Zenone qualche segno di disagio, e invece i due seguivano l'argomento di Socrate con grande attenzione e spesso, guardandosi l'un l'altro, sorridevano e si compiacevano di lui. Quando Socrate ebbe concluso il suo dire, Parmenide, interpretando il sentimento dei due filosofi, cominciò: «O Socrate, come mi piace questo tuo fervore nella discussione, ma dimmi anche tu allora, da quanto dici hai voluto distinguere separate nella loro oggettività le idee, quali singole unità e, pure separate, le cose che di quelle partecipano? E ti par che veramente esista nella pura oggettività una similianza distinta da quella similianza che noi abbiamo, e così l'uno è il molteplice e tutto quello che ora appunto da Zenone hai udito?» «Per conto mio sì», rispose Socrate. «Allora, anche questo», continuò Parmenide, «una la specie, nella pura oggettività è distinta, del giusto, del bello, del buono e così via». «Sì», rispose. «Senti un poco, è una specie di uomo, separata da noi e da tutti quanti siamo, idea per sé singola e una, di uomo e di fuoco o anche di acqua?» «E Socrate, mi sono spesso trovato in difficoltà, o Parmenide, su questo punto. Bisogna dire qui come per le specie precedenti o in modo diverso?» «E anche sui seguenti fatti, o Socrate, che sembrerebbero ridicoli, come capelli, fango, sporcizia e altra simile cosa, quanto più spregevole e più vile, sei incerto se bisogna ammettere che di ciascuna ci sia separatamente una specie, altra da quanto trattiamo con le mani?» «Non lo credo affatto», disse Socrate, «ma per queste cose qui, quello che l'uomo vede anche ne esprime l'essere. E credere nell'esistenza di una specie, singola e una, per queste cose, temo sia troppo strana affermazione. È vero che talvolta mi ha turbato il dubbio che tutte le cose si trovino in eguale condizione, ma poi, dopo essermi un momento indugiato, me ne fuggo via per timore di cadere e di perdermi in un abisso di chiacchiere inutili e vane. Ora sono giunto là, presso quegli enti che, come ora dicevamo, possono ammettere le idee e su queste, pensando, studio e lavoro. E Parmenide, giovane sei ancora, Socrate, quest'amoroso uso di sapienza non ti ha ancora preso tutto intero, come ti prenderà, e ne sono pienamente sicuro, il giorno in cui non avrai in dispregio nulla di queste cose. Ora consideri tuttavia degne di riguardo le opinioni della gente. È un difetto codesto della tua giovane età. Ora, un'altra cosa. Credi davvero, come affermi, che esistano veramente le idee? E queste altre sensibili cose partecipando, assumono forse i nomi di quelle? Così, in seguito a partecipazione con simiglianza, si fanno simiglianti. Con grandezza, grandi. Con bellezza e con giustizia, divengono giuste e belle. Senza dubbio, rispose Socrate. Non ti pare dunque che ciascun partecipante partecipi o dell'idea intera o d'una parte? Ci potrebbe essere qualche altro modo di partecipazione oltre a questo? E come mai? Rispose. Ti pare che l'idea intera permanga una nelle cose tutte che sono molteplici e in ciascuna di esse? O come intendi? Che cosa impedisce, rispose Socrate, che permanga una, o Parmenide? Dunque l'idea, una e identica, si ritrova nelle cose molteplici, e l'una dall'altra distinte e separate. Questa idea esisterà anche tutta intera in esse, e così sarà da sé distinta e separata. No, rispose Socrate, questo potrebbe non avvenire se, come il giorno, pur essendo uno e medesimo, è in molte parti contemporaneamente, e tuttavia, per tale motivo, non da se stesso separato. Alla stessa guisa ciascuna idea potrebbe ritrovarsi in tutte le cose una e nello stesso tempo medesima. E Parmenide, graziosa la tua immagine, o Socrate, la medesima unità potrebbe essere così contemporaneamente in più parti. Sarebbe come se tu coprissi con una vela molti uomini e dicessi che la vela è pur sempre un intero nel suo rapporto con quegli uomini che sono molti. Pensi tu di dire una cosa simile? Forse, rispose. Ebbene, sarebbe intera la vela su ciascuno, oppure parte di quella vela sarebbe sopra uno, parte sopra un altro. Parte. E Parmenide, divisibili sono dunque anche le idee, e le cose che ne partecipano ne sono partecipi di una parte soltanto. Così non ci sarebbe più in ciascuna cosa un tutto, ma soltanto una parte. Direi proprio così. E vorrei dunque, o Socrate, affermare che l'idea una si divide in parti realmente e pur tuttavia è una sempre? In nessun modo, rispose. E ora osserva, continuò. La grandezza, nella sua oggettività, dividila in parti. Ciascuna delle cose grandi sarà grande allora per una parte di grandezza, e questa parte sarà più piccola della pura grandezza. E non sarà forse assurdo tutto questo? Senza dubbio, disse. Bada a ciò che segue. Ciascuna cosa dovrà accogliere in sé una qualche piccola parte dell'eguale. Sarà possibile che, con la parte più piccola dell'eguale, questa cosa divenga eguale a qualche altra? Impossibile. Ma supponiamo che qualcuno di noi abbia una parte del piccolo. Allora il piccolo sarà più grande che non questa parte, che appunto ne è parte. Ne seguita quindi che quel piccolo sarà più grande, e questo piccolo, se gli si aggiunga la parte che gli fu tolta, sarà più piccolo e non più grande di prima. Non è conclusione possibile, disse codesta. In qual maniera dunque, o Socrate, le sensibili cose partecipano alle idee, se le cose non possono partecipare a queste cose in rapporto né di intero né di parte? E Socrate, concludendo, in nome del cielo, non mi par davvero facile risolvere in qualche modo un simile problema. E ora senti un poco, come la pensi su questo punto? Quale? Penso che valendoti di un ragionamento di questo genere, sarai pervenuto ad ammettere che esiste, una e singola per ogni cosa, l'idea. Quando scorgi una pluralità di cose che sembrano grandi, certamente hai l'impressione che vi sia in tutte una sola impronta caratteristica, che appare pur sempre medesima a colui che queste molte cose coglie con uno sguardo solo, dal che sei condotto a pensare che il grande costituisce una singola unità. «È la verità», rispondeva. «Sta attento. Se in pari guisa con l'anima consideri insieme il grande nella pura oggettività e le altre cose sensibili e pur grandi, non ti apparirà forse ancora un'idea, in sé una, di grande, per la quale i due primi ti appaiono grandi? Direi di sì. Apparirà dunque un'altra specie di grandezza, al di là di pura oggettiva grandezza e al di là delle cose che ne partecipano, e sopra, in rapporto ulteriore con tutti questi elementi, ancora un'altra idea, per la quale i termini che inferiori ne partecipano, tutti saranno grandi, e non più, come vedi, singolarmente la specie sarà una sola, ma infinita moltitudine. E continuò quindi Socrate: «Ma, o Parmenide, e se ciascuna di queste idee fosse un pensiero, e se in nessun altro luogo potesse prodursi, esclusa l'anima? Per tal guisa si potrebbe avere singolarmente una sola idea e non s'andrebbe contro alle difficoltà di cui ora dicevi. Bada bene», continuò, «uno, ammettiamo pure, è ogni singolo pensiero, ma è forse pensiero di nulla?» «È impossibile», rispose. «Dunque, di qualche cosa?» «Sì». «Di cosa che esiste o di cosa che non esiste?» «Di cosa che esiste». «Non forse di quell'uno, singola unità, che il nostro pensiero intende presente in tutta una serie di cose e che ne costituisce impronta unica e caratteristica?» «Sì». «E allora, non sarà forse specie questo pensiero, pensato quale uno, che sempre in tutte le cose è il medesimo?» «È necessaria conclusione». «E allora bada», disse Parmenide, «se tu affermi che le sensibili cose sono partecipi delle idee, non è forse necessario che tu concluda con questa alternativa, o che ciascuna cosa sia formata di pensieri e che quindi tutte le cose debbano pensare, oppure che tutte le cose, pur essendo pensieri, siano tuttavia prive di pensiero?» «Ma nemmeno questa», disse Socrate, «è conclusione sostenibile. Piuttosto, o Parmenide, io ritengo che ci sia un'altra soluzione del problema. Queste idee sono immobili nell'ideale essenza, quasi esemplari, e le cose sensibili e staccate dalle idee assomigliano alle cose e ne sono simulacri. Così, questa partecipazione delle cose con le idee avviene appunto perché le cose sono immagini e copie delle idee. Dunque, se qualche cosa è simile all'idea, ti par possibile che l'idea non sia simile a sua volta alla sua copia? Entro quei limiti, naturalmente, secondo i quali la copia può essere immagine dell'idea. O è possibile forse ammettere che il simile non sia simile al simile? No, non vi è modo. E il simile non deve forse necessariamente partecipare, assieme al suo simile, a qualche cosa unica e ai due termini identica? Necessariamente. E ciò di cui partecipando le cose simili diventano simili sarà l'idea precisamente, non è vero? Verissimo. Dunque non è possibile che qualche cosa sia simile all'idea né l'idea a qualche cosa. In caso contrario, comparirà sopra l'idea sempre un'altra idea, e se questa a qualche cosa fosse simile, un'altra ancora apparirà, e mai cesserà di sorgere una novella idea, ogni qualvolta l'idea diventa simigliante a ciò che di essa partecipa. È molto vero quello che dici. Dunque, non per simiglianza le cose sensibili partecipano delle idee, ma bisogna cercare qualche altro mezzo di partecipazione. Direi di sì. Vedi dunque, concluse, o Socrate, di quale difficoltà sia la tesi che ammette le idee nella purezza della loro oggettività. Purtroppo. E Parmenide allora, secondo Pitodoro, continuò a dire: «In ogni modo devi sapere che non hai ancora fatto esperienza completa, seppur continui ad affermare che vi è, a parte l'idea singola, e una per tutto quello che esiste. Come intendi? Penso, rispose, a molti fatti, ma questo è il più importante. Poi continuò. Supponiamo, qualcuno sostiene che queste idee non si possono nemmeno conoscere, ammesse le caratteristiche che noi affermiamo. E a chi proponesse questa impossibilità, nessuno avrebbe modo di dimostrare l'errore. In un solo caso si potrebbe fare la dimostrazione, quando il dubitante fosse natura ricca di interiore esperienza, spiritualmente dotata e disposta a seguire il maestro, che gli fa dimostrazione faticosa per tramiti remoti e molteplici. Se tale condizione non si verifica, si crederà a chi sostiene l'inconoscibilità delle idee. Come mai, o Parmenide? Domandò Socrate. Perché, Socrate, te o un altro qualsiasi, se affermate che esiste nella sua purezza distinta e sola una esseità, in sé una, di tutte le singole cose, credo dovrete ammettere, in primo luogo, che tale esseità non sia affatto in noi. Sì, come potrebbe ancora essere nella sua purezza distinta e sola? Disse Socrate. Dici bene, rispose. Quindi, anche tutte le idee che in singole reciproche relazioni sono quelle che sono, esprimeranno la loro propria esseità soltanto entro i limiti di queste relazioni, non in rapporto alle cose del nostro mondo, siano esse copie di quelle, siano ciò che si voglia, e noi, in seguito a questo processo di partecipazione, siamo chiamati con singoli nomi. Ma in realtà le cose del nostro mondo, pur avendo il medesimo nome di quelle, vengono a trovarsi anch'esse, diremo, nella loro purezza distinte e sole nel loro rapporto, e non in rapporto con le idee, indipendenti, non derivate da quelle di cui pure riferiscono il nome. Come intendi? Disse Socrate. Così, rispose Parmenide. Se qualcuno di noi è padrone o servo d'altri, non del padrone, o in altre parole, non della pura specie padrone, non di questa egli è servo, e neppure del servo, o in altre parole, della pura specie servo, non di questa è padrone il padrone, ma uomini essendo il padrone e il servo, con un uomo in pari guisa l'uno e l'altro rapporto si svolge, e la padronanza nella sua oggettività rispetto alla servitù nella sua oggettività è quello che è. Lo stesso ragionamento vale per la servitù nella sua oggettività rispetto alla padronanza nella sua oggettività. E Parmenide quindi continuò: così quanto avviene nel nostro mondo non ha potere alcuno verso ciò che è di là, né quel mondo che è di là rispetto a noi. Insomma, quelle idee sono nella loro purezza appartenenti a se stesse e in rapporto limitato a se stesse. Le cose del nostro mondo sono reciprocamente in uguale condizione, in un rapporto limitato a se stesse. O non intendi quello che ti dico? Sì, sì, intendo benissimo, rispose Socrate. Perciò anche la scienza, nella sua oggettività, l'esseità di scienza, non sarà forse scienza d'una verità nella sua oggettività, scienza dell'esseità di questa? Sì, indubbiamente. E così pure le singole scienze, nella loro oggettività, saranno scienze di singoli argomenti nella loro purezza. Che ne dici? Sì. E la scienza che vige presso noi non sarà forse scienza della verità presso noi vigente? E, per reciproca guisa, ciascuna scienza che vige presso noi non dovrà forse essere scienza di ciascuna delle cose presso noi vigenti? È necessario. Tuttavia, le idee, nella loro purezza, come tu stesso ammetti, non le abbiamo, né possibile è averle presso di noi. No, certo. E i generi, nella loro purezza, secondo le loro singole determinazioni, sono conosciuti da un'idea pura, l'idea della scienza, non è vero? Sì. Che noi, in ogni caso, non abbiamo, no. Quindi le idee non le conosciamo, perché non ci si concede partecipazione alla scienza nella sua purezza. non pare. Sconosciuta dunque è per noi l'essità del bello nella sua oggettività, quel bello che veramente è, e così il buono è quanto affermiamo essere un'idea, un in sé, è ben grave conseguenza. E va bene, adesso conseguenza più grave ancora. Quale? Direi certo che se nella sua purezza vi è uno e singolo un genere di scienza, sarà di gran lunga più perfetto della nostra scienza. Lo stesso si dica per bellezza e per ogni altra idea. Sì. Dunque, se qualcuno è partecipe della scienza nella sua oggettività, non potrai forse dire che nessun altro, più di Dio, possegga questa perfettissima scienza? Necessariamente. Ma ti par possibile che Dio conosca il nostro mondo se possiede nella sua purezza la scienza? Perché no? Perché, rispose Parmenide, abbiamo già ammesso, o Socrate, che quelle idee non possono esercitare sul nostro mondo l'azione loro propria, né, d'altra parte, le cose del nostro mondo la possono esercitare su quelle. L'uno e l'altro ordine viene quindi a trovarsi per suo conto, in un rapporto limitato a se stesso. Già, abbiamo ammesso. Concludendo, se presso Dio è perfezione assoluta di comando e perfezione di una scienza in sé, ne viene che il comando delle potenze superiori non governerà mai su di noi e la loro scienza non potrà mai conoscere noi o alcun evento nostro, ma a quella guisa che col nostro dominio non abbiamo su loro nessuna influenza, a quella guisa che nulla del divino con la nostra scienza conosciamo. In pari rapporto quelli né sono i nostri padroni, né, pur essendo dei, conoscono le cose umane. E Socrate concluse: ben strano ragionamento quello che a Dio toglie il sapere. Queste difficoltà, o Socrate, continuò Parmenide, e altre ancora oltre a queste, ti si presentano circa le idee, se accetti che esistano tali principi per sé manifesti delle cose, e se stabilisci ciascuna idea nella sua purezza e singolarità. Così chi ascolta viene condotto a dubitare, pieno quindi di incertezza, afferma intanto che le idee non esistano e, anche ammesso che esistano, necessariamente siano sconosciute all'umana natura. Così dirà, e i suoi argomenti sembreranno sicuri e, come ora facevo osservare, invincibile sarà questa sua posizione. E solo ad uomo fornito di alte doti spirituali sarà concesso apprendere finalmente che esiste in sé, unico, di ciascuna cosa un genere, e così un'esseità nella sua purezza oggettiva e sola. E ammirazione ancor più grande spetterà a chi possa fare scoperta e interiore conquista di tale verità. E Socrate, per parte mia, sono pienamente d'accordo con te, o Parmenide. Tu esprimi quella che è pure la mia opinione. Ma, d'altra parte, continuava Parmenide, se, considerando queste difficoltà che abbiamo detto ora e altre simili, non si vuol concedere che esistano queste idee delle cose, se non si vuol stabilire in sé una, l'idea di ciascun singolo ente, non avremo più ove rivolgere il nostro pensiero. In tal modo, non lasciamo più sussistere di ciascun ente un principio per sé manifesto che sia il medesimo sempre. Resta allora così distrutta del tutto ogni possibilità di discorso. E di simile conseguenza, o Socrate, direi davvero che tu abbia avuto completa sensazione. Dici la verità, esclamò Socrate. Come dovrei fare dunque, se tuo deve essere davvero quest'uso amoroso di sapienza? Dove potrei rivolgerti se tutto questo ti è ignoto? Non vedrei davvero dove potermi rivolgere, in questo momento almeno. E Parmenide allora, troppo presto, prima di aver fatto esercizio sufficiente, t'accingi a definire che cosa è il bello, il giusto, il buono, ciascuna singola specie. Ho capito questo l'altro giorno quando ti udii discutere, in questo luogo, col nostro Aristotele. In ogni caso, bello e divino, ben sappi è l'entusiasmo che ti porta di fronte a questi grandi problemi. Coraggio dunque, fa esercizio più frequente in quella disciplina che la gente stima inutile e la chiama vanità di parole. Ciò devi fare finché pochi sono ancora agli anni tuoi. In caso contrario, cercherai invano di avere tra le mani la verità. Ma Socrate, quale allora, Parmenide, il sistema per esercitarsi? Questo, rispose, che hai udito da Zenone. Del resto, per un altro motivo, ancora, ti seguivo ammirato mentre con lui parlavi. Non hai lasciato che l'indagine si perdesse vagando tra le cose che si vedono. Ti sei affidato a risultati che, soprattutto, si conseguono per via di ragionamento, a quegli oggetti, insomma, che si possono chiamare le idee. Sì, non dovrebbe riuscire, disse, in tal modo molto difficile dimostrare che gli enti sono simili e dissimili e che sopportano in sé ogni altro contrario. E Parmenide, hai ragione, ma è necessario che tu aggiunga alla comune anche la seguente via di esercitazione. Non soltanto supporre l'esistenza di qualche cosa e considerare poi le conseguenze dell'ipotesi, ma anche ammettere per ipotesi che la stessa cosa non sia. Provvidenza necessaria se desideri esercitarti meglio. Come intendi? Domandò Socrate. E l'altro? Ecco, se vuoi, prendiamo l'ipotesi fatta da Zenone. Se la pluralità esiste, e vediamo quanto conseguentemente accada a queste cose qui che sono molte, e in rapporto a se stesse e in rapporto all'uno. Quindi, vediamo quanto conseguentemente accada all'uno, e in rapporto a se stesso e in rapporto ai molti. Reciprocamente, quindi, se la pluralità non esiste, di nuovo, bisogna considerare che cosa accadrà all'uno e alle cose che sono molte, e in rapporto a se stessi e nel loro reciproco rapporto. Ancora, se si mette quale ipotesi che la simiglianza esiste o anche che non esiste, bisogna considerare che cosa accadrà nell'uno o nell'altro caso e alle cose di cui tratta la nostra ipotesi e alle altre, in se stesse e nel loro reciproco rapporto. E trattandosi della dissimiglianza, lo stesso metodo e del moto e della quiete e della generazione e corruzione dell'essere nella sua pura oggettività e del non essere. In una parola, qualunque cosa tu supponga, o esistente o non esistente, o in quella condizione che tu voglia, bisogna considerare le conseguenze dell'ipotesi per l'oggetto, in rapporto a se stesso e in rapporto a ciascuno degli altri oggetti che si scelgano nella discussione, rispetto a molti e quindi a tutti. E gli altri, nel loro insieme, bisogna considerarli sia in rapporto a se stessi, sia in rapporto a qualunque oggetto, e questo procedimento seguirai tanto se tu supponga esistente quello che supponi, quanto se non esistente. Questo metodo così complesso, se vuoi compiutamente esercitandoti, contemplare in tutta potenza la verità. E Socrate, sì, ben difficile, o Parmenide, questo tuo metodo, e nemmeno capisco bene il tuo pensiero, ma perché non me ne dai tu stesso un esempio? Potresti stabilire qualche ipotesi, perché meglio io possa comprendere. Troppa fatica, disse, o Socrate, per un vecchio come sono io. Allora, concluse Socrate, perché non me ne dai tu, Zenone, l'esempio? E Pitodoro raccontava che Zenone, sorridendo, dicesse: piuttosto rivolgiamo preghiera a Parmenide. Penso, vedi, che non sia da poco l'esercitazione alla quale accenna. Non vedi, o Parmenide, quale enorme sforzo tu richiedi? Se fossimo più numerosi, non sarebbe conveniente insistere. Trattare argomenti di questo genere in presenza di molti non è certo opportuno, soprattutto poi una persona della tua età. La gente ignora che, se si trascurano questi giri di pensiero e questo quasi errabondo discutere attraverso ogni argomento, è impossibile che la mente arrivi ad acquistare il vero. Per mia parte, o Parmenide, mi unisco alle preghiere di Socrate perché, dopo tanto tempo, ho desiderio anch'io di ascoltare una tua lezione. Questa è la risposta di Zenone, e, secondo la versione di Antifonte, Pitodoro riferiva ad aver insistito anche lui presso Parmenide, così pure Aristotele e così gli altri, si voleva che il maestro desse dimostrazione del metodo di cui parlava. Allora Parmenide, «Volere o non volere», disse, «bisogna darvi ascolto. In realtà, direi davvero, sono un po' come il cavallo di Ibico. Questa poeta assomiglia a se stesso, appunto, a un destriero, vittorioso in altre gare, ma troppo vecchio ormai. Questo destriero, sul punto di scendere in lizza, trema per ciò che avverrà. Egli, esperto di tante vicende, e Ibico si confronta col cavallo e dice: «Pur io, vecchio come sono, contro volontà mi trovo per forza costretto a volgermi verso nuove esperienze d'amore. E, ripensando su questo fatto che mi venne a mente, trovo ben giusta la mia apprensione. Come potrò, a quest'età, varcare a nuoto simile e sì grande profondo mare di ragionamenti? In ogni caso, vi accontenterò, tanto più che, come dice Zenone, siamo qui, soli fra noi». «E va bene, donde cominceremo la discussione? Quale sarà la nostra prima ipotesi? Sentite, cosa direste se cominciassi da me e dalla mia ipotesi? Tanto abbiamo ormai deciso di svolgerlo, questo faticoso gioco. Metteremo dunque, per ipotesi, l'uno, sia che l'uno sia, sia che l'uno non sia, e vedremo le conseguenze». «Benissimo», esclamò Zenone. «Ma chi vorrà darmi le risposte? Il più giovane è meglio. Non farà obiezioni o difficoltà, rispondendo semplicemente in modo conforme al suo pensiero. Nello stesso tempo, durante gli intervalli, avrò modo di riposarmi un poco». «Eccomi pronto, Parmenide», esclamò Aristotele. «Perché intendi accennare a me, dicendo il più giovane? Fa dunque le domande e io ti risponderò». Prima ipotesi. Cominciò allora Parmenide. «Ebbene», disse, «se uno è, potrebbe forse essere molti l'uno? Come potrebbe? Quindi né parte vi sarà di lui, né quest'uno deve essere un tutto. Come intendi? La parte certo è parte d'un tutto. Sì, e che è il tutto? Non forse tutto è ciò in cui nessuna parte manca? Senza dubbio. Quindi, in un senso e nell'altro, l'uno sarebbe composto di parti, sia che fosse un tutto, sia che avesse parti. Necessariamente. Quindi, in un senso o nell'altro, per tal guisa, l'uno sarebbe molti, ma non uno. Vero. Invece, secondo l'ipotesi, non deve essere molti, ma uno, senza dubbio. Dunque, l'uno, se deve essere uno, non sarà un tutto, non avrà parti. No, certo. E adesso, se non ha parte alcuna, non avrà neppure principio, neppure fine, neppure mezzo. Senz'altro ciò verrebbe a costituire parte di lui. Giusto. Inoltre, fine e principio sono limite d'ogni cosa. Infinito dunque è l'uno, se non ha principio e non ha fine. Infinito. E senza figura dunque. In realtà, non ha partecipazione alcuna con la figura e con la figura diritta. Come? Rotonda, certo, è cosa i cui estremi in ogni parte distano egualmente dal centro. Sì, e d'altra parte, diritta la figura il cui centro è opposto ai due estremi. Così. Quindi l'uno avrebbe parte e sarebbe pluralità, sia che partecipasse la figura diritta oppure la figura del cerchio, senza dubbio. Dunque, non è diritto, non è fatto a cerchio, dato che l'uno non ha nemmeno parti. Giusto. Eppure, tale essendo, non sarà in alcun luogo, non sarà infatti in altri, non sarà in sé. Come? In altri, intanto essendo, sarebbe abbracciato in giro da ciò in cui si trova, e in più luoghi, con molte parti, dovrebbe esserne toccato. Ma l'uno, che non ha parti, che non ha forma circolare, è impossibile che tutto intorno sia toccato in più parti. Impossibile. D'altra parte, se supponiamo che sia soltanto in sé medesimo, lo sarebbe includendo non altri che se stesso, dato che in se stesso soltanto l'uno è. In realtà, è impossibile che qualche cosa sia in altra cosa senza esserne inclusa. Ma allora, altra cosa sarebbe chi include, altra diversa ciò che è incluso. In realtà, una medesima cosa, considerata come intero, non potrà ammettere le due condizioni opposte, sopportare e agire. Così si avrebbe la conseguenza che l'uno non sarebbe più uno, ma due. In conclusione, l'uno non è in qualche luogo, né in se stesso, né in altro. Non è possibile. Osserva ora, se così è l'uno, potrà forse stare immobile o muoversi? E perché no? Intanto supponiamo che si muova. Ciò potrebbe avvenire soltanto per modo di traslazione o di trasformazione. In realtà, questi sono i soli tipi di movimento. Sì, l'uno, trasformandosi in se stesso, non potrà più certo ancora essere uno. Dunque, trasformandosi non si muove. Evidente che no. Ma forse si muove per traslazione? Forse. In ogni caso, se l'uno si muovesse per traslazione, o rotolerebbe nello stesso luogo circolarmente, o muterebbe sito d'uno in altro luogo, necessariamente. Intanto, rotando circolarmente, è necessario che il centro sia sostegno del moto e che attorno al centro, trasportate, vi siano altre parti. Ma ciò cui non compete né mezzo né parti, in qual modo potrebbe essere trasportato in giro su centro? In nessun modo. Allora, mutando sito, si viene a trovare ora in un luogo, ora in un altro, e così si muove? Sì, almeno. Bada, trovarsi per qualsiasi modo in qualche cosa, non dimostrammo che a lui è impossibile. Sì, e il venirsi a trovare non è forse ancora più impossibile? Non capisco come. Se in qualche cosa viene a trovarsi altra cosa, necessariamente questa seconda cosa, mentre tuttavia viene, non può essere ancora nell'altra, e reciprocamente non può essere totalmente al di fuori di quest'altra, dal momento che tale azione è pure iniziata, necessariamente. Dunque questo processo potrà certo aver luogo, ma solo quando esistono parti. Allora avremo che una parte della prima cosa sarà ormai nella seconda, e una parte, contemporaneamente, ne sarà fuori. Ma ciò che non ha parti, dato che è un tutto indiviso, non potrà in nessun modo essere dentro ad altra cosa e contemporaneamente esserne fuori. È vero. Ma sarà ancora più impossibile che in altra cosa venga a trovarsi. In realtà, ciò di cui non esistono assolutamente le parti, ciò che non è un tutto, non ci viene né per parte né per intero. Direi di sì. Dunque, né altrove andando e in altra cosa venendo non cambia sito, né si muove nello stesso luogo rotando in giro, né trasformandosi. Secondo dunque ogni specie di movimento, l'uno è immobile, immobile. Sappiamo tuttavia che non può essere in qualche cosa, quindi neppure mai in un medesimo luogo. Perché? Perché senz'altro sarebbe in quel medesimo luogo nel quale è, indubbiamente, ma abbiamo dimostrato che non può trovarsi in sé o in altro. Mai dunque l'uno è in un medesimo luogo. Naturale. Bada, in ogni caso, una cosa che non è nello stesso luogo non è quieta, non sta immobile. Già, non è possibile. L'uno dunque, come pare, né sta immobile né si muove. No, appunto, com'è evidente. Ma nemmeno sarà identica a un altro e a sé. Reciprocamente, nemmeno differente da sé e da un altro. Come mai? Essendo differente da sé, sarebbe altro da uno, non sarebbe più l'uno. Ma anche essendo identica a un altro, sarebbe quest'altro, e lui non più sarebbe. Cosicché, in tal guisa, non sarebbe più quello che è uno, ma altro dall'uno. Non sarà dunque identico a un altro o differente da se stesso. Va bene, ma differente da un altro non sarà finché sia uno. In realtà, all'uno non si concede differenziazione da qualche cosa, che solo si concede ove alterità di termini renda l'un termine differente dall'altro, in nessun caso più. Siccome dunque è uno, non avrà differenziazione da altri, o invece lo credi? Ma se non lo è per questo motivo, non per se stesso lo sarà, e se non lo è per sé, nemmeno lui, l'uno, lo sarà, e se in nessun modo è differente, da nessuno dunque sarà differente. Ma neppure sarà identico a sé. Come dici di no? Quella che è natura dell'uno non è certo anche natura dell'identità. Perché? Perché nel momento in cui qualcosa diventa identica ad altra, questa cosa non è più uno. Non capisco bene. Ciò che diviene identico ai molti è necessario che divenga molti, non uno. Vero. Ma se l'uno e l'identico non differissero in nulla, quando qualche cosa diventasse identica, anche diverrebbe una sempre, e reciprocamente, quando diventasse una, anche identica, certamente. Se dunque l'uno sarà identico a sé, non sarà uno con se stesso, e così, pur essendo uno, non sarà uno. Ma questo è impossibile. Impossibile, dunque, per l'uno essere differente da un altro o identico a se stesso. Impossibile. Così l'uno non sarà differente o identico né a sé né ad un altro. No, certo. Neppure, tuttavia, sarà simile a qualcuno o dissimile, non a sé, non ad un altro. Perché? Perché il simile, non c'è dubbio, è contenuto nell'identico, come in una specie di maggiore estensione. Sì, estraneo anzi dall'uno ci apparve per natura l'identico. Sì, ci apparve. Ma se l'uno fosse contenuto da una specie di estensione maggiore che non sia la stessa unità, gli avverrebbe di essere più di uno, e ciò è impossibile. In nessun modo dunque è possibile che l'uno sia contenuto, come da una specie di estensione maggiore, dall'identico ad altri o a sé. No, evidente. Non è possibile dunque che sia simile né ad altri né a se stesso. No, è naturale. Ma neppure si concede all'uno di essere differente. In realtà, così sarebbe più di uno, sì, di più. Ma ciò che è contenuto nel differente da se stesso o da altri sarebbe dissimile da sé o da altri, dato che il simile è contenuto nell'identico. Giusto, sì, e l'uno, come naturale, in quanto non è contenuto nel differente, non è mai dissimiliante né da altri né da se stesso. No, certo. L'uno non sarà dunque simile o dissimile né rispetto a un altro né rispetto a sé. Eppure, se è così, non sarà uguale o diseguale né rispetto a sé né ad altri. Come mai? Supponiamo che sia uguale. Sarà allora di misura uguale a ciò di cui è uguale. Sì, se più grande o più piccolo in confronto a grandezze a lui commensurabili, avrà più misure che quelle di lui più piccolo, di quelle più grandi meno. Sì, e in confronto a grandezze a lui incommensurabili, sarà di talune per misura più piccolo, di talune altre più grande. Ma non è impossibile che quanto non partecipa al carattere dell'identità porti in sé misure identiche o qualsiasi altra relazione che implichi l'identità? Impossibile. Non sarà dunque uguale né a sé né ad altri, non essendo di uguali misure. No, mi pare evidente. Ma supponiamo che sia di più misure o di meno. Allora, quante sono le misure, altrettante saranno le sue parti. E così ancora, non sarà più uno, bensì altrettanti. Quante le misure? Giusto. Se, d'altra parte, fosse di una sola misura, diverrebbe uguale a questa misura. E abbiamo dimostrato impossibile che sia uguale a qualche cosa. Sì, lo dimostrammo. In conclusione, non partecipando di una sola misura, non partecipando di molte o di poche, siccome non partecipa assolutamente all'identità, non sarà mai uguale a sé né ad altri, come pure nemmeno più grande o più piccolo, non di sé, non di altri. È proprio così, veramente. Bada ora. Ti pare che l'uno sia più vecchio o più giovane o di uguale età? E perché no? Perché se avesse la medesima età in relazione a sé o ad altri, parteciperebbe di similianza e di eguaglianza, secondo il rapporto del tempo. E a nessuna di queste relazioni dicevamo che l'uno partecipa, non alla simiglianza, non all'eguaglianza. È vero, dicevamo così. E quindi che non partecipa alla dissimiglianza e alla diseguaglianza, anche questo dicevamo, senza dubbio. Come dunque sarà possibile che sia più vecchio o più giovane di qualcuno? In nessun modo. Concludendo, l'uno non sarà più giovane o più vecchio, né avrà la stessa età, non in relazione con sé, non in relazione con altri. È evidente, no. Quindi, assolutamente, l'uno, se tale, non potrà essere in relazione di tempo. Non è forse necessario che, qualora una cosa è nel tempo, sempre divenga più vecchia di se stessa? Necessario. Ma il più vecchio non è forse più vecchio di chi è più giovane? Cosa vuoi dire? Sì, ciò che diviene di sé più vecchio anche diviene più giovane di se stesso. Deve avere infatti necessariamente un termine opposto di cui divenga più vecchio. Come intendi? Così. Una cosa non può divenire in nessun modo differente da un'altra se quest'altra cosa sia già differente. Ma di una cosa che sia già differente deve essere già differente. Deve invece essere divenuta di cosa che sia divenuta. Così pure essere per divenire di cosa che è per divenire. Anche di ciò che sta divenendo differente. Non deve questa cosa essere già divenuta differente, né essere per divenire, né essere, ma divenire e niente altro. È necessario, sì, ma intanto essere più vecchio è differenza sul più giovane, su nessun'altra cosa. Sì, quindi ciò che diviene più vecchio di sé è necessario che divenga pure di se stesso più giovane. Naturale, ma d'altra parte una determinata misura di tempo non può svolgersi per un periodo maggiore o minore della sua durata stessa, bensì per un periodo di tempo uguale alla sua durata potrà svolgersi e mantenersi, essersi svolta e svolgersi nel futuro. Sì, è necessario anche questo. Dunque, è necessario, come pare, che quanto è nel tempo e di esso partecipa abbia la stessa età in relazione a se stesso e diventi più vecchio di sé insieme e più giovane. Ma l'uno non ha certamente parte con qualcuna di queste condizioni. No, non ne ha parte, così abbiamo dimostrato. Dunque del tempo a lui non è parte, né l'uno è in alcun tempo. No, è vero, così parola dimostra. Bada ora, era, è divenuto, diveniva, non sembrano significare forse partecipazione a un tempo che già fu? Senza dubbio. E senti, sarà, diverrà, sarà divenuto, non significano forse partecipazione di tempo futuro? Sì. Ed è, diviene, non forse partecipazione del momento presente, di ora? Indubbiamente. Quindi, se l'uno non partecipa in nessun modo di nessun tempo, né mai è divenuto, né diveniva, né era mai, neppure ora è divenuto, diviene, è, e nemmeno in avvenire diverrà, sarà divenuto, sarà. Verissimo. È possibile quindi che qualche cosa partecipi all'essere in modo diverso da uno di questi rapporti? Non è possibile. Per nessun modo dunque l'uno partecipa all'essere. Direi di no. Per nessun modo dunque l'uno è. No, evidente. E neppur dunque vi è in lui essere, in modo da dire che è uno. Come immediata conseguenza, in qualche modo così sarebbe e parteciperebbe all'essere, mentre è manifesto che l'uno né è uno né è, seppur si deve prestar fede a questa argomentazione. Proprio così. E ciò che non è, questo non ente, potrebbe avere qualche cosa? O qualche cosa potrebbe essergli propria? E come? Dunque, non ha né nome, né discorso, né scienza, né sensazione, né opinione. No, è evidente. Non può essere dunque chiamato a nome, non si può esprimere, non se ne fa argomento di congettura, non lo si conosce. E nulla di quanto esiste ne ha sensazione. Direi di no. E ti par possibile che sia questa la condizione dell'uno? A me, almeno, non pare. Seconda ipotesi. Vuoi che ritorniamo ancora dal principio sull'ipotesi, nel caso che, tornandola a considerare, ci apparisse diversa? Senza dubbio, lo voglio. Dunque, uno se è, non dobbiamo forse dire che dovremo senz'altro ammettere le conseguenze di questa ipotesi, qualunque ne sarà il risultato? Non è così? Sì. Bada dunque, cominciamo. Uno se è, sarà forse possibile che sia, ma non partecipi all'essere? Non è possibile. Dunque l'essere, pur non essendo la stessa cosa dell'uno, sarà proprio dell'uno, perché, in caso contrario, quest'essere non sarebbe essere dell'uno. Né, d'altra parte, l'uno parteciperebbe di quello, ma sarebbe la stessa cosa dire uno ed essere, come dire uno uno. Ora, non è questa la nostra ipotesi, se uno uno, ma se uno è. Quali le conseguenze? Non è forse così? Indubbiamente. Si intende che è significava cosa diversa dalla parola uno. Necessariamente. Quando si dice sinteticamente uno è, non si vuole significare altro con questa frase se non che l'uno partecipa dell'essere. Non è vero? Non c'è dubbio. Ora, ripetiamo, uno se è, quali le conseguenze? Osserva. Non è forse necessario che questa ipotesi significhi che l'uno sia di tale natura da ammettere parti? Come? Così. Se la parola è si dice proprio dell'uno essere e viceversa la parola uno dell'essere uno, se non è la stessa cosa l'essere e l'uno, e se l'una e l'altra parola si predica in comune di ciò che abbiamo supposto, l'uno ente, non è forse necessario che il tutto sia appunto l'uno ente, che l'uno e l'essere ne risultino parti? Necessariamente. Forse che ciascuna di queste parti la chiameremo soltanto parte, o non piuttosto la parte dovrà essere sempre parte d'un tutto. D'un tutto. Dunque ciò che è uno è un tutto e a parti. Senza dubbio. Senti un poco. Diresti che ciascuna di queste parti dell'uno che è, cioè l'uno e l'essere, siano deficienti, nel senso che o l'uno manchi di fare parte dell'essere o l'essere dell'uno? Non può avvenire. Di nuovo, dunque, ciascuna di queste parti ha in sé l'uno e l'essere, e ogni singola parte viene a comporsi almeno di due parti, e, secondo lo stesso rapporto, così, sempre, ciò che diviene parte in sé possiede queste due parti. In realtà, l'uno sempre possiede in sé l'essere, e l'essere sempre l'uno. Così, necessariamente generandosi sempre il due, mai vi è l'uno. Perfettamente. In tal guisa, l'uno che è non sarà forse infinita moltitudine? Naturale. E adesso sta attento ancora. A che cosa? Non diciamo forse che l'uno partecipa all'essere e che perciò è? Sì. E perciò appunto l'uno che è ci apparve molti. Così. Osserva dunque. L'uno nella sua oggettività, quello che, stiamo dicendo, partecipa appunto all'essere, qualora per mezzo del nostro pensiero solo arriviamo a considerarlo distinto nella sua purezza, senza insomma ciò di cui lo diciamo partecipe, credi forse che ci apparirà uno o piuttosto molti, quest'uno nella sua purezza? Uno, per conto mio. Proviamo dunque a vedere. È necessario che il suo essere sia una cosa e altra cosa egli stesso, dato che l'uno non è l'essere, ma soltanto in quanto uno ne partecipa, necessariamente. Quindi, se altra cosa è l'essere e altra cosa l'uno, questo è altro dall'essere, non certo in quanto uno. Né l'essere, per ciò che è essere, è altro dall'uno, ma bensì, per opera dell'alterità, o se vuoi, per opera della differenza, i due termini sono differenti. Indubbiamente. Perciò l'alterità non è la stessa cosa dell'uno e dell'essere. E come si potrebbe pensarlo? Bada ancora. se prendiamo l'essere e l'alterità, o l'essere e l'uno, o l'uno e l'alterità, non prendiamo forse in ciascun momento due certe cose che giustamente possiamo chiamare una coppia? Come? Così. Non si può forse dire essere? È possibile. E ancora dire uno? Anche questo. Non abbiamo forse detto l'una e l'altra cosa? Sì. E quando invece dico essere e uno, non li nomino ambedue insieme in coppia? Certamente. E dunque, anche se dico essere e alterità, oppure alterità e uno, in tal guisa, ogni volta, non dico forse una coppia? Sì. E quelle cose che sono chiamate esattamente una coppia, possono forse essere una coppia e non essere due? Non è possibile. E quelle che sono due, per qual modo potranno ciascuna singolarmente non essere uno? In nessun modo. Ciascun termine, dunque, di ogni coppia sarà uno, dato che, presi insieme, formano due. Chiaro? E se ciascuno di questi termini è uno, aggiungendone uno qualsiasi a qualsiasi coppia, il tutto non diventa forse tre? Sì. E il tre non è dispari? Il due non è pari? Come no? Ora sta attento. Se c'è il 2, non deve esserci necessariamente il 2 volte? Così pure, essendoci il 3, il 3 volte. Non si potrà negare che nel 2 è compreso il 2 volte 1 e nel 3 il 3 volte 1. Necessariamente. Ed essendoci il 2 e il 2 volte, non deve esserci anche il 2 volte 2? Ed essendoci il 3 e il 3 volte, non deve esserci anche il 3 volte 3? Come no? Su via, essendoci il 3 ed essendoci il 2 volte, ed essendoci il 2 e il 3 volte, non deve esserci anche il 2 volte 3 e il 3 volte 2? Ma certo, ci sarà dunque la moltiplicazione di numeri parimenti pari e di numeri parimenti dispari, come pure di numeri pari e dispari pari. È così. Se dunque è così, credi che possa mancare qualche numero nella serie numerica? No. In nessun modo. Se dunque è l'uno, necessità ne consegue che anche il numero sia. Ma se ammettiamo il numero, anche la pluralità esiste, e il numero indefinito degli esseri. Non ti pare in realtà che il numero, pur indefinito per quantità, sia tuttavia partecipante all'essere? Sì, certamente. Quindi, se nella sua totalità il numero partecipa all'essere, anche ciascuna parte del numero non ne dovrà forse partecipare? Sì. Per tutto quanto esiste nella sua molteplicità, l'essere è dunque distribuito, e da nulla l'essere è lontano, non dall'infinitamente piccolo, non da quanto vi è di più grande. E non è già assurdo aver formulato soltanto l'ipotesi come mai l'essere da qualche cosa potrebbe star lontano? In nessun modo. Si immilla dunque l'essere quanto è più possibile in parti minutissime e grandissime, e queste parti sono indefinitamente varie, e si immilla per incredibile guisa l'essere, e di lui sono parti senza fine. È così. In numero sterminato, dunque, sono le parti, senza numero, certo. E ora sta attento. Vi è forse qualcuna che sia parte dell'essere, ma che nello stesso tempo non sia nessuna parte? E come potrebbe essere allora una certa parte? Ma, dato che è, penso, necessariamente è una certa cosa, finché è, ed impossibile che nulla sia, necessariamente. In ogni singola parte dell'essere è presente l'uno, e non abbandona né parte più piccola, né parte più grande, né altra nessuna. Così. Dunque, essendo l'uno in molte parti, è forse presente per contemporanea guisa tutto intero in queste parti diverse? Sta attento a questa domanda. Sto attento e vedo che è impossibile. Diviso sarà in parti dunque, dato che quale tutto intero non è presente in essi. In altro modo, infatti, non potrà trovarsi contemporaneamente in tutte le parti dell'essere, ma soltanto diviso in parti. Sì, ma ciò che si immilla deve anche moltiplicarsi per quante sono le sue parti, necessariamente. Non è esatto, dunque, quanto dicevamo poco fa, che in parti senza numero l'essere si immilla. In realtà non più si immilla che l'uno, ma inguisa in numero uguale all'uno. È un fatto che l'essere non abbandona l'uno, né l'uno l'essere, ma sempre in ogni caso due come sono vanno alla pari. Direi proprio così. L'uno dunque, nella sua purezza, si immilla per opera dell'essere ed è pluralità e quantità indefinita. Chiaro, dunque, non soltanto l'uno che è molti, ma anche l'uno nella sua purezza cui l'essere immilla necessariamente è molti, senza dubbio alcuno. In ogni modo, in quanto le parti sono parti d'un tutto, l'uno sarebbe limitato in quanto è un tutto. O non credi che le parti siano comprese nel tutto? Necessariamente, ma in ogni caso ciò che comprende sarà anche limite. Come no? L'uno dunque che è, certamente è anche uno e molti, tutto e parti, limitato e illimitato in quantità. Evidente. Dunque, dato che è limitato, non avrà anche estremi? Necessariamente. E senti un poco, se è un tutto, non avrà anche principio, mezzo e fine? O ti par possibile che ci sia un tutto senza queste tre funzioni? E se una qualsiasi abbandona l'uno, potrà ancora essere uno? Non potrà. Dunque e principio, come naturale, e fine e mezzo avrà l'uno. Avrà. Ma il mezzo dista in eguale misura dagli estremi. In nessun altro modo potrebbe dirsi mezzo. No, certo. E allora l'uno, se tale, parteciperà ad una certa figura, sia diritta o rotonda o mista dell'una e dell'altra dimensione. Parteciperà, sì. Dunque, quest'uno non sarà incluso in se stesso e in altri? Come? Indubbiamente, ciascuna parte è nel tutto, e nulla vi è fuori del tutto. Così. E tutte le parti non sono forse contenute nel tutto? Sì. Eppure, l'uno corrisponde a tutte le sue stesse parti, nulla più, nulla meno che tutte. Nulla, certo. Ma il tutto, a sua volta, non è forse l'uno? Come no? Se dunque la totalità delle parti si trova ad essere del tutto, se questa totalità viene ad essere, vuoi l'uno, vuoi lo stesso tutto, e se sono contenute dall'intero tutte queste parti, conseguentemente dall'uno sarà contenuto l'uno, e così senz'altro l'uno appunto sarà incluso in se stesso. Chiaro. Tuttavia, il tutto non è nelle sue parti né in tutte né in qualcuna. In realtà, se fosse in tutte, sarebbe anche in ciascuna. Non essendo infatti in una qualsiasi, certo non potrebbe più essere in tutte. E dato che questa qualsiasi è compresa nel totale, se il tutto non fosse in questa, come mai potrebbe essere in tutte? Per nessun modo. Ma, d'altra parte, nemmeno è in qualcuna delle sue parti. In realtà, se il tutto fosse in talune sue parti, ci sarebbe il più nel meno. E questo è impossibile. Sì, impossibile. Non essendo dunque il tutto nella maggioranza delle sue parti, né in una, né in totalità di esse, non è forse necessario che sia in qualche altra cosa o che non sia più in nessun luogo? Necessariamente. E dunque, non essendo in nessun luogo, nulla sarà. Siccome invece è un tutto, poiché in sé non è, necessariamente dovrà essere in altro. Senza dubbio. In quella, dunque, che l'uno è un tutto, è incluso in altro. In quella, invece, che è la totalità delle sue parti, l'uno è incluso in sé. E così ne viene di conseguenza che l'uno è in sé e in un altro. Di conseguenza. Se tale è dunque la sua natura, non dovrà l'uno anche muoversi e stare immobile? Come? Certo, sta immobile, seppure è in se stesso. Nell'uno, infatti, essendo e da quello non tramutandosi, nello stesso luogo sarà, in se stesso. Sì, sarà. Ma ciò che è nello stesso luogo, sempre è immobile, necessariamente. Suvvia, ciò che sempre è in altro, non forse per contraria ragione non potrà mai essere nello stesso luogo? E non essendo mai nello stesso luogo, non potrà nemmeno essere immobile, e non essendo immobile, non dovrà forse muoversi. Così, necessariamente dunque, l'uno, in se stesso sempre essendo in altri, dovrà muoversi ed essere inquiete. È chiaro. Eppure, identico deve essere con se stesso e differente da se stesso, e agli altri, in modo uguale, identico e differente, seppure hanno valore le condizioni di cui sopra dicevamo. Come? Ogni cosa, in relazione a ogni altra, si presenta così, identica o differente. Qualora poi non sia identica o differente, sarà parte d'un tutto, oppure sarà un tutto rispetto a una parte. Credo. Ma ti pare che l'uno sia parte di se stesso? In nessun modo. Nemmeno quindi, reciprocamente, sarà un tutto rispetto a una sua parte, un rapporto di sé, tutto a sé parte. Non è possibile. Ma sarà forse differente dall'uno, l'uno? Non credo. Non dunque sarà da sé differente. No, senza dubbio. Dunque, se non è differente, se non è rispetto a se stesso, né come parte, né come tutto, non deve necessariamente essere identico a se stesso? Necessariamente. Bada ora, quanto è in altra parte da se stesso, e questo se stesso intanto rimane stabile nel medesimo luogo, non deve necessariamente essere differente da sé, seppur si ammette che è in altra parte? Penso di sì. Questa appunto apparve condizione dell'uno. In sé, in altri. Sì, differente dunque, come pare, sarà perciò da sé, l'uno. Pare davvero. Osserva ora, se qualche cosa è differente da qualche altra, non ti pare forse che sia differente da questa cosa da cui differisce? Necessariamente. Quindi, quante cose non sono l'uno, tutte sono differenti dall'uno, e così pure l'uno è differente dalle cose che non sono uno. Come? Si conclude che differente sarà l'uno dagli altri, differente. Ora osserva questo. L'identico e il differente in sé, nella loro oggettività, non sono forse tra loro contrari? E come no? E credi quindi che l'identico potrà essere nel differente oppure il differente nell'identico? Non potrà. Se dunque il differente non sarà mai nell'identico, non esiste cosa alcuna in cui il differente sia per qualche tempo. In realtà, per quanto breve fosse l'istante in cui avviene il processo, per altrettanto tempo il differente sarebbe nell'identico. Non è forse così? Sì, sembra così. E siccome non è mai nell'identico, così in qualche cosa non sarà mai il differente. È vero. Dunque, il differente non sarà né in ciò che non è uno, né in ciò che è uno. In conseguenza, l'uno non sarebbe differente da ciò che non è uno per causa del differente, né le cose che non sono uno sarebbero differenti dall'uno. No, certo. D'altra parte, per sé sole, non partecipando al differente, non potrebbero essere tra loro differenti. Sì, e come lo potrebbero? E se non lo sono per sé sole, né lo sono per opera del differente, non ne viene forse di conseguenza che in modo assoluto esse sfuggono a ogni relazione di reciproca differenza? Certamente, sfuggono. Ma inoltre, neppure le cose che non sono uno partecipano dell'uno, perché se partecipassero, non sarebbero più non uno, ma in qualche modo sarebbero uno. È vero. Per cui non sarebbero nemmeno numero le cose che non sono uno. In realtà così non sarebbero più completamente non uno se avessero un numero. No, certo. Inoltre, le cose non uno sono forse parti dell'uno o, se fosse così, non avrebbero forse parte dell'uno le cose non uno? Avrebbero parte. Se dunque assolutamente vi è l'uno e vi sono le cose non uno, avremo per conseguenza che l'uno non sarà parte delle cose non uno, né sarà un tutto, come se quelle fossero parti, neppure, reciprocamente, le cose non uno potranno essere parti dell'uno e nemmeno un tutto, come se l'uno ne fosse una parte. No, certamente, ma tuttavia, dicevamo, quelle cose che per reciproca relazione non sono né parte, né intero, né differenti, sono identiche tra loro. Sì, dicevamo questo. Dobbiamo forse dire dunque che anche l'uno, rispetto a ciò che non è uno, trovandosi in tale condizione, sia identico a ciò che non è uno? Dobbiamo dirlo. Concludendo, l'uno, come pare, è differente dagli altri e da se stesso, è identico alle altre cose e a se stesso. Parola a tal punto conduce, almeno. Ed è forse simile e dissimile a se stesso e agli altri? Forse. Siccome ci apparve differente dagli altri, anche gli altri saranno da lui differenti. Certo, ma spiegati meglio. È un fatto che, essendo differente dagli altri, gli altri da lui non saranno forse in pari guisa differenti, né più né meno? Perfettamente. E poi? Ma se non lo sono né più né meno, saranno anche in una condizione simile? Sì. In conclusione, per ciò che l'uno è differente dagli altri e gli altri da lui in pari rapporto per questo motivo e in identica condizione, sarà l'uno con gli altri e gli altri con l'uno. Come dici? Così. Ciascun nome non lo dici forse per qualche oggetto? Io sì. E allora il medesimo nome lo potrai pronunciare una volta o non forse più volte? Io sì. Dunque, qualora tu lo pronunci una sola volta, chiami a nome quella cosa di cui c'è quel nome, e se più volte non la chiamerai più questa cosa? Oppure, qualora lo stesso nome fai risuonare una volta, qualora più, necessariamente non devi dire sempre la stessa cosa? Ma cosa ne concludi? Non ti par forse che anche il differente sia un nome per qualche oggetto? Indubbiamente. Quando dunque lo pronunci, sia una volta, sia più volte, non per altra cosa tu lo dici, né altra cosa tu dici, se non quella cosa di cui esso è nome, necessariamente. Quando dunque diciamo che differente è l'uno dagli altri e differenti gli altri dall'uno, diciamo certo due volte la parola differente, ma non perciò la diciamo in rapporto ad altra natura, ma solo per quella di cui essa è originariamente nome. Indubbiamente. Perciò dunque che l'uno è differente dagli altri e gli altri dall'uno, e perciò che all'uno e agli altri si addice sempre questo differente, non in diversa condizione, ma bensì nella medesima si trovano l'uno e gli altri. Ora, ciò che si trova nella medesima condizione è certo simile, o no? Sì. Quindi, perciò che l'uno è differente dagli altri, perciò appunto, nella sua totalità, agli altri nella loro totalità, sarà simile. Si vide precisamente che nella sua totalità è differente da essi, pure nella loro totalità. Naturale. Tuttavia, il simile è contrario al dissimile. Sì. Dunque, anche il differente all'identico, anche questo. Ma abbiamo messo in luce anche questo. L'uno è identico agli altri. Sì, l'abbiamo dimostrato. E l'essere identico agli altri è opposta condizione dall'essere differente dagli altri. Indubbiamente. E per ciò che è differente ci apparve simile. Sì. Perciò dunque che ci appare identico sarà dissimile. Per la ragione contraria a quella che lo faceva simile. Ed era appunto il differente che lo faceva simile. Sì, sarà dunque l'identico a farlo dissimile, o la qualità non sarà contraria del differente? Penso di sì. Simile dunque e dissimile sarà l'uno rispetto agli altri, e in quanto differente, simile, in quanto identico, dissimile. L'uno ha anche questa caratteristica, come pare evidente. Ma anche questa, quale? Perciò che l'uno subisce partecipando nell'identico, non ha partecipazione con l'idea di diverso. Perciò che non ha partecipazione con l'idea di diverso, non è dissimile. Non essendo dissimile, è simile. In quanto poi l'uno subisce partecipando nell'idea della diversità, è diverso. e in quanto diverso è dissimile. Dici il vero. Dunque, essendo l'uno identico agli altri e da questi differente, per l'una e per l'altra ragione e per ciascuna, sarà simile agli altri e dissimile, indubbiamente. E dunque, in pari misura, con se stesso, per l'una e per l'altra ragione e per ciascuna di esse, non apparirà forse simile e dissimile, dato che apparve differente da sé e identico a se stesso? Necessariamente. Sta bene attento ora. Considera in quali condizioni si trovi, in rapporto al contatto di se stesso e degli altri, e in rapporto alla contraria condizione. Considero. Abbiamo veduto che quest'uno è nel suo stesso tutto, giusto? E non forse anche negli altri l'uno? Sì, in quanto dunque è negli altri, toccherà gli altri, in quanto invece è in sé, sarà impossibile che tocchi gli altri, e soltanto toccherà se stesso, essendo in sé. Così dunque toccherà sé e gli altri l'uno. E cosa dici di quanto sto per dire? Non credi forse che quanto deve toccare un'altra cosa dovrà essere vicino a quella che deve toccare? Che ciò avverrà in quanto occupa un posto appresso a quello dove l'altra cosa giace? Necessariamente. Anche l'uno dunque, se deve toccare se stesso, dovrà trovarsi immediatamente vicino, accanto a se stesso, occupando lo spazio vicino a quello dove si trova. Sì, dovrà, ma soltanto essendo due, l'uno potrà far questo, e in tal modo si troverà in due luoghi, e finché uno sia, non potrà far questo. No, non potrà. Per eguale necessaria ragione, dunque, l'uno non potrà essere due e non si potrà toccare. Eguale. Ma non tocca nemmeno gli altri. E perché? Perché, diciamo, ciò che deve toccare, essendo separato, deve star vicino a ciò che deve toccare. In mezzo, come terzo, nulla ci deve essere. Veramente. Bisogna che vi siano al minimo due cose, se deve esserci il contatto. E qualora a queste due cose se ne aggiunga una terza vicina, le cose saranno tre e i contatti due. E per tal guisa, sempre una unità aggiungendosi, non ne deriva che un solo contatto. E così i contatti sono inferiori di uno in confronto alla somma totale delle cose. In realtà, di quel rapporto per cui le prime due cose superano i contatti, in tale rapporto uguale, il successivo completo numero supererà il completo numero dei contatti. In tutto il processo ormai avverrà che mentre un numero solo alle cose s'aggiunge, anche un solo contatto ai contatti. Giusto? Quindi, ammesso un numero delle cose, sempre per una unità ne sono inferiori i contatti. Vero. E se vi è soltanto l'uno e non esiste il due, non vi sarà possibile contatto. Quindi, diciamo, gli altri dall'uno né sono uno né a lui partecipano, dato che sono altri. No, certo. Non dunque esiste numero negli altri, se in essi non v'è uno. No, certo. Così neppure uno saranno gli altri, né due, né avranno alcun nome di altro numero. No. Per cui solo l'uno è uno e il due non vi sarà. Crederei di no. Ma nemmeno contatto se due non esiste. Quindi né l'uno tocca gli altri né gli altri l'uno, dato che contatto non c'è. No, certamente. In conclusione, per tutti questi motivi, l'uno tocca e non tocca gli altri e se stesso. È naturale. Non sarà forse uguale e diseguale con sé e con gli altri? Come? Se l'uno fosse più grande degli altri o più piccolo, oppure, reciprocamente, se gli altri fossero più grandi dell'uno o più piccoli, per il fatto che l'uno è uno e gli altri sono altri dall'uno, se avessero valore soltanto queste idee, l'uno e gli altri non sarebbero affatto né più grandi né più piccoli fra loro. Non credi? Ma soltanto se, oltre ad essere quei principi che sono, entrambi avessero l'eguaglianza, sarebbero allora reciprocamente uguali. così pure se gli altri avessero grandezza e l'uno piccolezza, oppure anche se l'uno grandezza e gli altri piccolezza, allora quello in cui si trova grandezza sarà più grande, quello invece in cui piccolezza più piccolo. Dunque, non vi sono forse due idee, grandezza, piccolezza? Qualora non ci fossero, non potrebbero essere nemmeno fra loro contrarie. Come d'altra parte non potrebbero trovarsi in qualche cosa? Sì, come altrimenti? Quindi, se piccolezza viene nell'uno, sarà in lui o nel tutto o in parte, necessariamente. E se sarà nel tutto, che accadrà? Non forse o sarà distesa in pari misura per totalità dell'uno o lo avvolgerà? Sicuro, è chiaro, ma essendo pari in misura all'uno, sarà anche uguale a lui, e se lo abbraccia, più grande. E ti par possibile che piccolezza sia uguale a qualche cosa, o più grande di qualche cosa, e che compia ufficio di grandezza e di eguaglianza, ma non il proprio ufficio? Impossibile. E quindi la piccolezza non sarà nell'intero uno, ma semmai in parte. Sì, né tuttavia in tutte le singole parti. In caso contrario, tornerà a produrre gli stessi effetti che per l'intero, sarà uguale o maggiore della parte entro cui viene a trovarsi, necessariamente. Quindi, in nessuno degli esseri vi sarà piccolezza, non trovandosi nel tutto, né in qualche sua parte, né alcuna cosa sarà piccola eccetto la piccolezza. Non credo. Né in un qualsiasi essere vi sarà grandezza. Esisterebbe in realtà qualche cosa di più grande sopra la grandezza stessa, la cosa in cui si trova la grandezza, e ciò senza che ci sia, a lei contraria, piccolezza, cui grandezza necessariamente deve superare, seppure è grande. Ma ciò è impossibile, dato che piccolezza non c'è in nessun luogo. Vero. D'altra parte, anche grandezza non è più grande di nessun'altra cosa, se non appunto della piccolezza, né piccolezza d'altra cosa è più piccola che, precisamente, della grandezza. Dunque, né gli altri saranno più grandi dell'uno, né più piccoli, non avendo né grandezza né piccolezza, né queste due idee hanno, rispetto all'uno, ma solo tra loro, nel reciproco rapporto, la possibilità di superare e di essere superate. D'altra parte, l'uno non sarà più grande di esse, né di altri, come pure nemmeno più piccolo. Non ha in realtà né grandezza né piccolezza. Ma se l'uno non è più grande degli altri e nemmeno più piccolo, necessariamente non dovrà superare gli altri e nemmeno esserne superato. In conclusione, ciò che né supera né viene superato è necessario che eguagli se stesso e che, eguagliandosi, sia uguale. Quindi, l'uno, in relazione a sé, né più né meno, sarà in questa condizione, non avendo in sé né grandezza né piccolezza, né sarà superato né supererà se stesso, ma, eguagliandosi, sarà uguale a se stesso, indubbiamente. In conclusione, l'uno sarà uguale a sé e agli altri. Ancora, siccome in se stesso l'uno è, anche intorno a sé, di fuori, se stesso circuisce, e così, quale contenente sarà più grande di sé, quale contenuto invece più piccolo, e così l'uno sarà più grande e più piccolo di se stesso. Sì, sarà. Ma non è necessaria anche questa condizione, nulla vi è, se non l'uno e gli altri? Come no? Tuttavia, anche deve essere in qualche luogo ciò che pure è. Dunque, ciò che è in altra cosa dovrà essere in più grande cosa, più piccolo essendo. Non per altra guisa vi sarebbe cosa in cosa. No, certo. E poiché nessun'altra cosa vi è all'infuori degli altri e dell'uno, e questi debbono pure essere in qualche cosa, non è forse pur necessario che, reciprocamente, questo sia in quello, cioè gli altri nell'uno e l'uno negli altri, o che non siano in nessun luogo? Evidente. Perciò, dunque, che l'uno è negli altri, gli altri quali lo contengono, saranno più grandi dell'uno, invece l'uno sarà più piccolo degli altri, perché è contenuto. Per il fatto, poi, che gli altri sono nell'uno, l'uno, per la medesima ragione, sarà più grande degli altri, invece gli altri più piccoli dell'uno. L'uno, in conclusione, è uguale, più grande e più piccolo di sé e degli altri. È evidente. Eppure, se più grande, più piccolo ed uguale, avrà anche un numero di misure uguale, maggiore o minore, in rapporto a se stesso e in rapporto agli altri, e, se misure, avrà anche parti. Come no? E, avendo uguali misure, o più o meno, anche il numero che lo esprime in rapporto a lui e in rapporto agli altri sarà più piccolo o più grande. Come pure, per la stessa ragione, uguale a sé e agli altri. Come? Di ciò di cui è più grande sarà anche composto di più misure, e quante le misure, altrettante saranno le parti. Lo stesso si dica per ciò di cui è più piccolo, e così pure per ciò di cui è uguale. Dunque, essendo più grande di sé e più piccolo ed uguale, sarà di misure o uguali o più numerose o meno numerose rispetto a se stesso, e se di misure, anche di parti. Essendo dunque di parti uguali a se stesso, sarà anche per dimensione uguale a se stesso, e se di più parti, sarà più grande, se di meno, più piccolo rispetto a se stesso. Ma anche rispetto agli altri non sarà tale l'uno, che, cioè, in quanto appare, più grande necessariamente dovrà essere, come numero, più grande, in quanto minore, di numero più piccolo, e in quanto per grandezza uguale, uguale sarà per grandezza agli altri, necessariamente. Così dunque, ancora, come evidente, l'uno sarà uguale e più e meno in numero con se stesso e con gli altri. Non forse l'uno anche è partecipe del tempo? È e diventa più giovane non solo, ma anche più vecchio di sé e degli altri. E, d'altra parte, non è, non diventa più giovane o più vecchio, né di sé né degli altri. E queste due relazioni, in quanto partecipa del tempo. Come? Certo deve essere, seppure è, uno. Sì, ed essere, forse è altra cosa, se non partecipazione dell'essere col tempo presente. Così era col tempo passato e, reciprocamente, sarà, non è forse partecipazione dell'essere col futuro? Sì, lo è. Partecipa dunque col tempo, seppure partecipa anche con l'essere. Quindi, anche col tempo nel suo fluire, non ti pare? Sempre dunque diventa più vecchio di sé, seppure procede nel tempo. Ma non ci ricordiamo forse che un più vecchio, per ciò che diventa più giovane, diventa appunto più vecchio? Ricordiamo. Dunque, poiché l'uno diventa più vecchio di se stesso, diventerà certo più vecchio diventando più giovane di se stesso, necessariamente. Diventa dunque così, più vecchio e più giovane di se stesso. Ed è più vecchio, non forse quando attinge il tempo presente, il quale nel suo divenire è intermedio tra l'era e il sarà. Infatti, procedendo dal passato al futuro, non salterà il presente, no, certo. Non forse interrompe questo suo progressivo divenir più vecchio quando si trova nel presente? Così non più diviene, ma è allora già più vecchio. Procedendo infatti sempre avanti, non sarebbe mai colto dal presente. In realtà, ciò che procede avanti si trova in tale condizione da toccare l'uno e l'altro momento, il presente e il futuro. Il primo, il presente, in quanto lo abbandona. L'altro, il futuro, in quanto lo accoglie. E in mezzo tra l'uno e l'altro, tra il futuro e il presente, il suo divenire si compie. E se necessariamente ogni cosa che diviene non può deviare dal presente allorché in esso si trovi, ogni cosa desiste in questo momento dal divenire, ed è allora ciò che sua evoluzione comporta. E anche l'uno dunque, quando, più vecchio divenendo, incontra il presente, si trattiene dal divenire ed è allora più vecchio. Indubbiamente, dunque, è anche più vecchio di ciò di cui diveniva più vecchio. E non diveniva forse più vecchio di se stesso? Sì. E non credi che il più vecchio sia più vecchio di un più giovane? Sì. Più giovane dunque di se stesso è l'uno nell'istante in cui, più vecchio divenendo, raggiunge il presente. Tuttavia, il presente sempre è presente nell'uno, in tutti i momenti del suo essere. È infatti sempre presente in quanto esso è. Come no? Sempre dunque l'uno è e diventa più vecchio di sé e più giovane. Naturale. E per tempo più lungo di se stesso è forse o diventa, oppure per tempo uguale. Per tempo uguale. Tuttavia, ciò che per tempo uguale è oppure diviene dovrà essere della medesima età. Come no? E ciò che è della medesima età non è né più vecchio né più giovane. No, è proprio vero. L'uno dunque, in quanto è e diviene per un tempo uguale a se stesso, non diventa né è più vecchio o più giovane di sé. Sta attento ora. E degli altri? Non ti so dire. Ma quanto segue lo sai dire, che cioè gli altri dall'uno, dato che sono altri, e non un altro soltanto, sono il numero più grande dell'uno. Se fossero altro, sarebbero uno, essendo invece altri, sono più dell'uno. Sì, hanno pluralità, ed essendo pluralità, parteciperanno a un numero più grande. Come no? Senti ora. Le quantità più alte del numero diremo che si formano o che anche si sono formate prima, o non diremo piuttosto che si sono formate prima le quantità minori. Le quantità minori, le più piccole dunque, per prime, l'uno appunto, o no? Sì, dunque l'uno per primo è sorto tra ciò che ha numero, e tutte le altre cose hanno numero, dato che sono altre, e non altro. Sì, hanno. Prima dunque giunge a perfezione ciò che sorge prima, gli altri più tardi. E ciò che giunge alla sua perfezione più tardi è più giovane di ciò che sorge prima. E gli altri dunque saranno più giovani dell'uno, e l'uno più vecchio degli altri. E ora bada a quanto segue. Potrebbe l'uno sorgere contro la propria natura, o è impossibile? Impossibile. Tuttavia ci apparve che l'uno apparti. E se parti, anche principio, fine, mezzo. Dunque, prima diviene tanto il principio dell'uno come degli altri tutti, dopo il principio anche tutte le altre parti, sino alla fine. Cosa ne concludi? Che, appunto, tutte queste altre parti diremo che lo sono sia del tutto sia dell'uno. Diremo pure che l'uno è diventato uno e tutto insieme con la fine. La fine, penso io, estrema si forma, e con essa, naturalmente, l'uno si completa. Così, seppure è necessario che l'uno non si formi per via contraria alla propria natura, compiutosi assieme alla sua fine, si forma naturalmente dopo tutti gli altri. Più giovane, dunque, degli altri è l'uno, e gli altri più vecchi dell'uno. Sì, affermo questo ancora. Senti, di nuovo. L'inizio, o altra qualsiasi parte dell'uno, o di qualsiasi altro ente, dato che si tratta di parte e non di parti indeterminate, non è pur necessario che sia uno, dato che si tratta di una parte? Necessariamente. Dunque, l'uno appare insieme a ciò che prima diviene e appare insieme a ciò che diviene secondo, e non cesserà mai l'uno d'accompagnarsi con gli altri momenti che via che divengono, qualsiasi posto nell'ordine e nella serie numerica, a questi convenga. Fino all'ultimo istante accompagna questo processo, e allora ecco, è uno e tutto. Fu presente nel processo di generazione, al mezzo, al primo, all'estremo, in ogni istante del divenire. Vero. Dunque, l'uno ha la stessa età degli altri, in guisa che, a meno di immaginarlo contro la sua natura, né prima né dopo gli altri sorgerà, ma insieme. E, secondo questo ragionamento, l'uno non sarà né più vecchio né più giovane degli altri, né reciprocamente gli altri dell'uno. Secondo, invece, il ragionamento precedente, sarà più vecchio e più giovane, e in guisa pari saranno gli altri da lui. Dunque tale è, in tal guisa è sorto. Ma che ti pare sul problema del suo divenire? Diremo su questo problema che l'uno diviene più vecchio e più giovane degli altri, e gli altri dell'uno. così pure, reciprocamente, né più vecchio né più giovane. È forse questo problema del suo divenire eguale a quello del suo essere? O si tratta di problema diverso? Non so dire. Per conto mio ti so dir questo. Se anche una cosa è più vecchia di un'altra, non le si può tuttavia concedere diventar più vecchia della seconda di quanto nel loro rapporto reciproco quella, la prima, ha superato per età la seconda nel momento in cui divenne primamente più vecchia. D'altra parte, a ciò che è più giovane non è concesso, per eguale ragione, diventar più giovane. In realtà, a quantità diseguali, aggiungendosi quantità eguali al tempo e a qualsiasi altra entità, sempre la differenza iniziale rimane, quale rapporto, immutata. Come no? Quindi, ciò che è più vecchio o più giovane non potrà diventare mai più vecchio o più giovane di uno che sia più vecchio o più giovane, dato che le due età differiscono sempre in misura costante. Sono divenuti e sono l'uno più vecchio, l'altro più giovane. Non possono più divenire. Vero. In conclusione, l'uno che è non diventa mai né più vecchio né più giovane degli altri. Quanti sono? No, certo. Osserva ora, se in questo seguente modo gli altri divengano più vecchi e più giovani. Come? Perciò che l'uno apparve più vecchio degli altri e gli altri più vecchi dell'uno. Perché dunque? Quando l'uno è più vecchio degli altri, certamente la sua esistenza è durata più tempo che quella degli altri. Osserva ora di nuovo, se a quantità maggiore e minore di tempo aggiungeremo una durata di tempo uguale, il rapporto tra la durata maggiore e minore sarà sempre lo stesso o sarà più piccolo? Più piccolo. Quindi, il rapporto suscettivo d'esprimere l'età dell'uno rispetto agli altri non resterà, col procedere dei tempi, quale inizialmente era, ma a tempo uguale agli altri assumendo, sempre meno di prima per età differisce da quelli, o no? Sì, e ciò che meno per età da un altro differisce da prima, non diventa forse più giovane che non in precedenza rispetto a ciò di cui era più vecchio prima? Più giovane. E se quello diventa più giovane, non forse quegli altri rispetto all'uno saranno più vecchi di prima? Indubbiamente. Dunque, rispetto a ciò che prima è nato e che è più vecchio, quello che è più giovane diventa più vecchio. Più vecchio tuttavia mai non è. Continuamente diventa sempre più vecchio di quello. L'uno infatti procede verso un ringiovanimento, l'altro verso vecchiezza maggiore, e il più vecchio diventa similiantemente più giovane del più giovane. Procedendo in contrario senso, divengono contrari anche tra loro. Il più giovane diviene più vecchio del più vecchio, e il più vecchio più giovane del più giovane. Ma compiere realmente questo processo per nessun modo potrebbero. In realtà, compiuto questo processo del divenire, non più diverrebbero, ma sarebbero. Invece, divengono l'uno dell'altro più vecchio o più giovani, e l'uno diviene più giovane degli altri perché più vecchio apparve e primo è sorto, gli altri invece più vecchi dell'uno perché più tardi sono sorti. Secondo lo stesso ragionamento, si dimostrerà che anche gli altri rispetto all'uno, dato che dimostrammo che di lui sono più vecchi e sono sorti prima, seguono un processo uguale. Sì, appare appunto così. Dunque, perciò che nulla diventa né più vecchio né più giovane di un'altra cosa, in quanto la differenza tra due termini è sempre un numero costante, appunto perciò l'uno non diventerà né più vecchio né più giovane degli altri, né gli altri dell'uno. Perciò invece che necessariamente è più antico, differisce da ciò che è più recente per una frazione sempre variabile, e viceversa ciò che è più recente da ciò che è più antico, perciò appunto non è forse necessario che reciprocamente divengano più vecchi e più giovani gli altri in rapporto all'uno e l'uno in rapporto agli altri? Senza alcun dubbio. Secondo dunque tutti questi ragionamenti, l'uno è e diventa più vecchio e più giovane di sé e degli altri, così pure né più vecchio né più giovane non è né diventa, non di sé, non degli altri. Certo, senza dubbio. Poiché dunque l'uno partecipa del tempo e della possibilità di diventare più vecchio e più giovane, non è forse anche necessario che partecipi un certo momento del passato, del futuro e del presente, dato che partecipa del tempo? Necessariamente, l'uno era ed è e sarà, anche divenne, diviene, diverrà. E qualche cosa avrà, e in relazione a lui qualche cosa sarà, e avrà passato, presente, futuro, era e sarà, e vi sarà scienza in relazione a lui e opinione e sensazione, dato che anche ora noi esercitiamo su di lui tutte queste operazioni. Hai ragione. E avrà dunque nome e definizione, e si nomina in realtà, e si esprime, e quante simili operazioni negli altri avvengono, tutte sono anche a proposito dell'uno. È proprio così, come dici. Terza ipotesi. Dunque, diciamo per la terza volta, ancora, se l'uno è quale dimostrammo, se cioè appare uno in molti, e né uno né molti, e se d'altra parte partecipa al tempo, non dovrà forse, in quanto è uno, partecipare all'essere? In quanto non è non partecipare in un certo momento all'essere? Necessariamente. Ma quando partecipa, sarà possibile che non partecipi, e quando non partecipa, partecipi? Non è possibile. In altro tempo, dunque, vi partecipa, e in altro non vi partecipa. In questa guisa soltanto gli sarà concesso partecipare e non partecipare a una medesima cosa. Sì, certo. Esiste dunque anche questo tempo, quando partecipa dell'essere e quando se ne allontana? E com'è possibile che in un istante abbia una cosa e in un altro istante questa medesima non abbia, se in un momento non la prenda questa cosa e in un momento non l'abbandoni? In nessun modo. E il partecipare all'essere non lo chiami tu nascere? Io sì. E il distaccarsi dall'essere non lo chiami forse perire? Senza dubbio. L'uno dunque, come pare, prendendo e abbandonando l'essere, nasce e perisce. Necessariamente. In quanto uno è molti, in quanto nasce, in quanto perisce, quando diventa uno, non perde forse l'essere molti? Quando diventa molti, non perde l'essere uno? Indubbiamente. Uno divenendo in molti, non è forse necessario che l'uno si divida in parti e si raccolga? Sì, è necessario. Così pure, quando diviene simigliante e dissimigliante, che s'assomigli e che non s'assomigli? Sì. E quando più grande e più piccolo ed eguale, che aumenti, che diminuisca, che si faccia eguale? Sì. E quando in moto s'arresta, e quando immobile trapassa al moto, bisogna pure che non sia in nessun tempo per quel momento. Come intendi? Immobile prima, quindi muoversi, e prima in moto, quindi arrestarsi. Ciò non può avvenire senza un trapasso. Sì, come altrimenti? Né vi è d'altra parte tempo in cui una medesima cosa insieme possa contemporaneamente muoversi e stare immobile. No, certamente. D'altra parte, neppure trapassa. Senza trapassare. Quando trapassa, dunque? Non certo trapassa finché è immobile, né mentre il suo movimento si svolge, e neppure finché è nel tempo. Ma vi è dunque veramente questa meravigliosa condizione nella quale una cosa si trova quando trapassa? Qual è questa condizione? L'istante. La parola istante viene a significare appunto questo. Partendo di qui, avvengono in senso inverso i due trapassi. In realtà, il processo di transizione non avviene né dalla condizione di immobilità ancora immobile, né dal moto ancora moventesi, ma l'istante ha questa straordinaria natura di trovarsi intermedio tra il movimento e l'immobilità, senza partecipare a nessuna relazione temporale. Per suo mezzo, il mobile trapassa all'immobilità e l'immobile alla mobilità, dall'uno all'altro stato, appunto. E l'uno, precisamente, dato che sta immobile e si muove, trapassa da quella a questa condizione. Soltanto, vedi, così potrà realizzare le due condizioni. e, trapassando, trapassa nell'istante, e mentre trapassa non sarà in nessun tempo, né si muoverà allora, né sarà immobile. No, certamente. Non forse così avviene anche per gli altri trapassi, quando per esempio dall'essere trapassa alla dissoluzione o quando dal non essere al nascere, non si trova allora in posizione intermedia tra condizioni di movimento e di immobilità? Non potremmo dire forse allora che l'uno non è, che nemmeno è, che non nasce, non si dissolve? Certo, è naturale. Secondo lo stesso rapporto, anche dall'uno trapassando ai molti e dai molti all'uno non è né uno né molti, non si divide né si riunisce. E così, dal simile andando verso il dissimile e dal dissimile verso il simile, parimenti non sarà né simile né dissimile, né seguirà processo di simiglianza né di dissimiglianza, e dal piccolo al grande e dall'eguale al contrario non sarà né grande né piccolo né eguale, né seguirà processo di accrescimento, di diminuzione, di eguaglianza. Naturalmente sono queste dunque le condizioni molteplici che l'uno subisce, se è, come no. Quarta ipotesi. Non dovremo ora considerare quale sarà la condizione degli altri, ammessa l'ipotesi uno se è? Sì, consideriamo pure. Diciamo dunque, uno se è, gli altri dall'uno in quale condizioni saranno? Diciamo pure. Dato che sono altri dall'uno, neppure l'uno sarà gli altri. Non sarebbero infatti altri dall'uno, giusto? Né, d'altra parte, gli altri sono interamente privati dell'uno, ma ne partecipano in qualche guisa. Come dunque? Perché, certo, gli altri dall'uno, per ciò che hanno parti, sono altri. Se non avessero parti, sarebbero interamente uno. Giusto. E le parti, dicevamo, sono parti di ciò che sia un tutto. Sì, dicevamo così, appunto. Ma l'uno che sia un tutto deve essere necessariamente composto di molti, un tutto di cui le parti saranno parti. Ciascuna delle parti, in realtà, non potrà essere parte di una pluralità, ma di un tutto. Come intendi? Se ci fosse cosa, parte di una molteplicità, in cui la cosa stessa avesse un suo posto, certo sarebbe parte di se stessa, il che è impossibile. Contemporaneamente, dovrebbe essere parte di ciascuno degli altri termini, seppure con tutti a questa relazione. In realtà, se non fosse parte di un singolo termine, lo sarà degli altri meno di questo. Avverrà così che non sarà parte singolarmente di ciascun termine e che, non essendo parte di ciascuno singolarmente, non sarà parte nemmeno di tutti i termini di quella molteplicità. E non essendo parte di nessuno, non potrà essere qualche cosa di tutti questi termini, e dato che non ha relazione alcuna con nessuno, non potrà esserne parte né aver con quelli qualsiasi altro rapporto. Proprio chiaro. Dunque, la parte non è parte né dei molti né dei tutti, ma di una certa forma unitaria e di un certo assieme che noi chiamiamo tutto, reso uno e perfetto in tutte le sue parti. E la parte ne sarà parte. Se dunque gli altri hanno parti, parteciperanno certamente dell'uno e del tutto. Gli altri, diversi dall'uno, dovranno necessariamente avere parti, essendo un tutto perfetto. Del resto, il medesimo ragionamento vale in relazione a ciascuna singola parte. Ogni parte pur deve partecipare all'uno. Se in realtà ciascuna di esse è parte, questo ciascuno viene a dire che si tratta di una unità, distinta dalle altre unità, con esistenza propria. E così soltanto ciascuna unità potrà essere. Giusto. E dovrà partecipare dell'uno, perché evidentemente altra è dall'uno. In caso contrario, non ne parteciperebbe, ma sarebbe né più né meno l'uno. Ora, essere uno è impossibile, eccetto per l'uno, nella sua purezza. Dovranno dunque partecipare dell'uno sia il tutto e sia la parte. In realtà, il tutto sarà quell'uno intero di cui le parti sono parti, e reciprocamente ciascuna parte, la quale sia parte d'un tutto, dovrà essere anche parte una e individua di quel tutto. Dunque, ciò che partecipa all'uno non ne parteciperà forse in quanto differente da lui? Come no? E queste cose differenti dall'uno dovranno certo essere molte. Se gli altri dall'uno non fossero né uno né più di uno, si avrebbe la conseguenza che sarebbero nulla. Certo. E poiché le cose che partecipano all'uno parte e all'uno tutto sono più d'una, non sarà forse necessario che in numero indefinito siano queste cose che partecipano all'uno? Come? Così, vediamo. Quando stanno per partecipare all'uno, non credi che si trovino in questa condizione senza essere ancora uno e senza ancora parteciparne? È cosa manifesta. Non forse essendo molteplicità nelle quali l'uno esiste? Molteplicità, certo. E ora senti, se col pensiero volessimo togliere da queste una parte quanto più piccola possibile, non dovremmo forse necessariamente ammettere che questa parte, la quale viene tolta, dato che non partecipa dell'uno, sia molteplicità e non unità? Necessariamente. E così, ogni qualvolta consideriamo questa condizione che è altra dall'idea, e la consideriamo per se stessa e distinta, qualunque sia la parte che ne guardiamo, non ci apparirà forse questa parte moltitudine indefinita? Indubbiamente. E tuttavia, ogni volta che ciascuna parte divenga parte, avrà senz'altro un limite reciproco rispetto alle altre rispetto al tutto, e così il tutto rispetto alle parti. Senza dubbio. Agli altri dunque, diversi dall'uno, perciò che essi stessi e l'uno si composero insieme, accade, come pare, che sorga in essi qualche cosa che è diversa. Da questa unione deriva in questi altri la presenza d'un limite, mentre la loro natura, di per sé stessa, darebbe a questi altri l'indeterminatezza. È evidente. Così, appunto, gli altri, diversi dall'uno, e tutti e secondo le parti, sono illimitati e partecipano di un limite, indubbiamente. Non forse dunque similianti e dissimilianti tra loro e tra loro stessi? Come dunque? Per il fatto che sono illimitati nella loro natura tutti quanti, per questo appunto si troveranno in eguale condizione. Ma anche per il fatto che tutti partecipano al limite, anche per questo tutti si troveranno in eguale condizione. Come no? Ma perciò invece che sono limitati e illimitati, per questo vengono a subire condizione opposta l'uno all'altro. Sì, ma ciò che è contrario è dissimiliante al massimo grado. Cosa vuoi dire? Che per l'una e per l'altra condizione, dunque, saranno somiglianti tra loro e reciprocamente, ma anche per l'una e per l'altra condizione parimenti del tutto contrari e dissimiliantissimi. È così. E allora, identici e diversi, mobili e immobili, e troveremo non difficilmente che questi altri, diversi dall'uno, subiscono tali altre condizioni opposte, seppure queste prime condizioni vi abbiamo potuto scoprire. Hai ragione. Quinta ipotesi. E ora, se lasciamo andare ormai queste conclusioni come manifeste e torniamo a guardare un'altra volta uno se è, si può forse trovare per gli altri una condizione diversa? O subiscono forse soltanto quella già detta? Benissimo, guardiamo. Diciamo dunque dal principio, uno se è. Quale deve essere la condizione degli altri dall'uno? Sì, diciamo pure. Non dobbiamo forse dire allora che l'uno sarà separato dagli altri e gli altri dall'uno? Perché mai? Perché allora certamente, oltre a questi, non vi è altro diverso dall'uno come pure diverso dagli altri. Tutto si è detto quando si dica l'uno e gli altri. Tutto, sì. Non vi è dunque risultante diversa da questi, nell'identità della quale siano insieme l'uno e gli altri. No, giammai dunque l'uno e gli altri sono nello stesso luogo. non pare. Separati dunque? Sì. E concludemmo che neppure a parti l'uno veramente tale. E come le avrebbe? Dunque l'uno non sarà negli altri, né come un tutto, né vi saranno parti di lui in questi altri. Distaccato è dagli altri e non a parti. E come le avrebbe? Per nessun modo dunque gli altri parteciperanno all'uno, non partecipando di lui, né come tutto, né come parti. Non pare. Per nessun modo dunque gli altri sono uno, né hanno in sé alcun uno. No, è vero. E quindi nemmeno gli altri sono molti. Ciascuno sarebbe infatti una parte del tutto se fossero molti. Ora invece né uno né molti né tutto né parti sono gli altri dall'uno. In realtà non ne hanno parte alcuna, per nessun modo. Giusto. Dunque gli altri né sono o due o tre, né questi numeri in sé contengono. Sono in ogni modo privati dell'uno. Così. E neppure gli altri sono similianti all'uno e da lui dissimiglianti, come pure non esiste in questi similianza e dissimiglianza. Se fossero infatti similianti e dissimiglianti o avessero in sé similianza o dissimiglianza, certo gli altri dall'uno avrebbero in sé due specie reciprocamente contrarie. E dimostrammo impossibile una partecipazione di qualsiasi due da parte di quelle cose che nemmeno dell'uno partecipano. Impossibile. Dunque essi, gli altri, non sono similianti e dissimiglianti, né riuniscono in sé le due condizioni. Se fossero similianti o dissimiglianti rispetto all'uno, dovrebbero avere partecipazione dell'una o dell'altra specie. Se si trovassero poi nell'una e nell'altra condizione, avrebbero parte di ambedue le specie contrarie, e ciò apparve impossibile. È vero. E neppure sono identici o differenti. Non si muovono, non stanno, non divengono, non si disfano, non più grandi o più piccoli, non eguali, né altra simile condizione subiscono. In realtà, se gli altri dovessero subire l'una o l'altra di queste condizioni, parteciperebbero allora anche del due, del tre, del dispari, del pari, e ci apparve impossibile la partecipazione al numero, privati come sono, totalmente e completamente, dell'uno. È verissimo. Così dunque, a conclusione, uno se è, in ogni cosa è uno e insieme nemmeno è uno, ciò in relazione a sé e agli altri in pari guisa. Perfettamente. Sesta ipotesi. E sia, e se non è uno, non bisogna forse ora considerare quali siano le conseguenze? Sì, bisogna considerare. Quale dunque è questa nostra ipotesi se uno non è? Ti pare che differisca in qualche modo dalla seguente se non uno non è? Certo, differisce. Differisce soltanto, o dire se non uno non è, non è forse dire il contrario da se uno non è. Tutto il contrario. Senti, se si dicesse se grandezza non è, o anche piccolezza non è, o qualsiasi ipotesi del genere, non ti pare che in ciascun esempio diciamo che non è ogni volta una cosa diversa? Indubbiamente. E quindi anche ora si dimostra che cosa diversa dalle altre si viene a significare quando si dice uno se non è. E intendiamo noi ciò che si dice? Intendiamo. Dapprima dunque si dice qualcosa che si può intendere, quindi una cosa diversa dalle altre, quando si dice uno, sia predicandone l'essere, sia predicandone il non essere. In effetti si intende bene cosa significhi il non essere e che è cosa distinta dagli altri, o no? Necessariamente. Così dunque conviene ora dire, dal principio, uno se non è, che cosa ne consegue? In primo luogo deve esserci, in rapporto con lui, come pare, una cosa. Ci sarà di lui scienza. O, in caso contrario, non si dovrà nemmeno intendere cosa si dice quando si dice uno se non è. Vero. Così pure anche gli altri dovranno essere da lui differenti o, in caso contrario, non si deve dire nemmeno che l'uno è differente dagli altri, indubbiamente, e, oltre a scienza, anche a alterità, perché non significa la differenza di altri, ma la sua, quando si dice che l'uno è differente dagli altri. Evidentemente sì. E quindi, l'uno che non è, partecipa di quello, di qualcuno, di questo, e a questo, e di questi, e di simili determinazioni. In caso contrario, non si potrebbe nemmeno esprimere quest'uno, e neppure gli altri da lui. In pari guisa, nemmeno qualche cosa a lui sarebbe e nulla avrebbe di proprio. Così, nulla dell'uno si potrebbe affermare se quest'uno non avesse parte del qualcuno e di tutti questi altri. Dunque, all'uno non è concesso d'essere, dato che non è. Tuttavia, nulla impedisce che abbia una partecipazione complessa, il che, anzi per forza, deve accadere, dato che si tratti di quel certo uno e non d'altro. Ma se non è questo l'uno di cui si parla, e il ragionamento si svolge su qualche altra cosa, non si dovrà più dire una parola. Se invece si afferma per ipotesi che quell'uno, appunto, e non altro, non è, allora dovrà aver parte di quello e di molti altri, senza dubbio. E l'uno avrà dissimiglianza con gli altri. In realtà gli altri, essendo diversi dall'uno, saranno pure d'altra condizione. E ciò che è d'altra condizione non è forse anche diverso? Come no? E ciò che è diverso non anche dissimile? Dissimile, certo. Dunque, se le cose sono dissimili dall'uno, è chiaro che, dissimili come sono, per la dissimiglianza saranno dissimili. Evidente. Dunque, l'uno avrà dissimiglianza e in conseguenza potrà avvenire che gli altri siano dissimilianti da lui. Naturale. E se ha dissimiglianza dagli altri, non forse dovrà avere una qualche simiglianza con se stesso? Come? Se l'uno ha dissimiglianza da uno, il ragionamento allora non si svolgerà più relativo a un argomento siffatto, cioè l'uno. E così pure l'ipotesi non sarà circa l'uno, ma bensì circa un altro dall'uno. Certamente. E questo non deve essere. No, certo. Bisogna dunque che l'uno abbia simiglianza con se stesso. Bisogna. In ogni modo, non è neppure uguale agli altri. Se in realtà fosse uguale, oltre ad essere uguale, sarebbe anche simile agli altri, in seguito all'eguaglianza, appunto. E ciò, nell'uno e nell'altro caso, è impossibile, dato che abbiamo per ipotesi l'uno non è. È impossibile. E dato che non è agli altri uguale, non ne segue, conseguenza necessaria, che anche gli altri non siano uguali a lui? Sì. E ciò che è diseguale non è forse diseguale a un diseguale? Come no? Dunque, della diseguaglianza l'uno partecipa, e in rapporto ad essa gli altri da lui sono diseguali. Partecipa. Ma in ogni caso, grandezza e piccolezza sono proprie della diseguaglianza. Sì, lo sono. Dunque, sono grandezza e piccolezza all'uno. Pare. Tuttavia, grandezza e piccolezza sempre differiscono tra loro. Indubbiamente. Dunque vi è qualche cosa sempre intermedia tra le due dimensioni. E avresti altra cosa da dire intermedia se non l'eguaglianza? No, soltanto questa. Dunque, ciò che ha grandezza e piccolezza ha pure eguaglianza intermedia tra quelle due. Direi, l'uno dunque, che non è, è partecipante a eguaglianza, a grandezza e a piccolezza. Naturale. Tuttavia, in qualche modo, deve anche partecipare all'essere. Come? Deve trovarsi precisamente nella condizione di cui stiamo dicendo. Se non fosse così, non diremmo cosa vera, affermando che l'uno non è. Il che, se è vero, manifesto appare che noi diciamo cosa che in certo modo è. Non è così? Così, certo. E poiché affermiamo di dir cose vere, dovremmo anche dire che affermiamo cose che sono, necessariamente. È, dunque, come pare, l'uno che non è. In realtà, se non sarà assolutamente un ente, ma per qualche guisa un po' dell'essere farà derivare sul non essere, immediatamente sarà ente, senza dubbio alcuno. Bisogna dunque che quest'uno abbia, quale sigillo del suo non essere, l'essere non ente, se veramente deve essere. E del resto, l'ente stesso deve avere come sigillo il suo non essere non ente, affinché sia compiutamente essere. In realtà, così sarà ente in massimo grado e reciprocamente il non ente non sarà, e ciò in quanto il primo, l'ente, partecipa all'essenza dell'essere ente e contemporaneamente partecipa pure dell'essenza del non essere non ente. D'altra parte il secondo, il non ente, dovrà partecipare della non essenza del non essere non ente e così pure dell'essenza dell'essere non ente, se questo non ente, pure compiutamente, non sarà. Verissimo. Dunque, se l'ente apparte nel non essere e il non ente apparte nell'essere, anche l'uno, poiché non è, appunto per non essere, ineluttabile ragione, avrà parte dell'essere. Chiaro, e si dimostra così che vi è l'essere nell'uno, se quest'uno non è. Si dimostra. E non essere dunque, dato che non è. Come no? E ti pare forse possibile che se una sola cosa si trova in una condizione, finisca per non trovarvisi più, senza mutarla, questa prima condizione? Non è possibile. Quindi, espressioni di questo genere, ciò che è così e ciò che non è così, vengono a implicare una mutazione. Come no? E mutazione, movimento, o che dobbiamo dire? Movimento. E l'uno non ci apparve forse essente e non essente? Sì, in una condizione e in un'altra, dunque, ci appare. Appare. E l'uno non essente ci si è dimostrato dunque mosso, dato che anche a mutazione dal non essere all'essere. Naturale. Ma tuttavia, se non è in nessun luogo, siccome non è, come per ipotesi non è, neppure potrà spostarsi da un luogo in un altro. Come, infatti? Non dunque si muoverà spostandosi. No, certo, e neppure in sé ha rotazione. Non tocca, infatti, l'identico in nessun punto. In realtà, l'identico esiste, e ciò che non è non potrà trovarsi in qualcuno degli esseri. No, certo, non potrà. Dunque, l'uno che ammettiamo non essere non potrà aver moto di rotazione in ciò in cui non è. No, certo. E d'altra parte, in rapporto a se stesso, l'uno non trasforma la sua condizione. E questo, tanto se è, quanto se non è. Il nostro ragionamento, allora, non si svolgerebbe più sull'uno, ma su qualche altra cosa se trasformasse la sua condizione. Giusto. E se non si trasforma, né in se stesso si rivolge, né trapassa da luogo a luogo, ti par forse che potrà ancora in qualche modo muoversi? Come mai? E ciò che è immobile deve necessariamente essere quieto, e ciò che è quieto deve stare, necessariamente. L'uno dunque, che non è, si muove, come pare, e sta immobile, naturale. Tuttavia, dato che si muove, è assolutamente necessario che in lui avvenga trasformazione. Se qualche cosa in realtà viene mossa, perciò appunto non è più come era prima, ma si presenta in diverso modo. Così, l'uno dunque è mosso e si trasforma. Sì. E se in nessun modo si muovesse, in nessun modo si trasformerebbe? No, certo. In quanto dunque si muove, l'uno che non è, si trasforma. In quanto non si muove, non si trasforma. L'uno dunque che non è, si trasforma e non si trasforma. Chiaro. E ciò che si trasforma non deve forse necessariamente tramutarsi, divenendo diverso da prima, e abbandonare così il suo primiero stato e perire? Ciò invece che non si trasforma non dovrà divenire e non dovrà perire, necessariamente. E l'uno dunque, che non è, in quanto si trasforma, diviene anche e perisce, e in quanto invece non si trasforma, né diviene né perisce. E così l'uno che non è diviene e perisce, né diviene né perisce. No, certo. Settima ipotesi. Di nuovo dunque andiamo al principio per considerare una seconda volta se ci appariranno le medesime conclusioni di ora o altre. Dunque diciamo, uno se non è, quali sono le conseguenze? Quando diciamo il non è, intendiamo forse significare altra cosa se non mancanza assoluta di essere in ciò che affermiamo non essere? Nient'altro. Forse, quando diciamo che qualche cosa non è, diciamo che in un senso non è, in un altro invece è? O non piuttosto questo giudizio che non è, non significa assolutamente che in nessun modo, per nessuna maniera, quella cosa è, che in nessun modo ciò che non è non può partecipare all'essere? Assolutamente, questo. Dunque, non potrà essere ciò che non è, né in altro modo qualsiasi partecipare all'essere. No, certo. Il divenire e il perire non è poi altro che questo. Il primo riceve l'essere, il secondo lo perde. Nient'altro. Ma ciò in cui l'essere non è per nessun modo presente, non lo potrà né ricevere né perdere. Sì, come? L'uno, dunque, dal momento che in nessun modo è, non può né avere l'essere, né lasciarlo, né parteciparne in nessun modo. Naturale. Dunque, l'uno che non è, né perisce, né nasce, dato che in nessun modo partecipa all'essere. Evidente che no. E neppure subisce, in nessuna maniera, trasformazione alcuna, perché senz'altro nascerebbe e perirebbe se gli avvenisse questo. Vero. E se non si trasforma, necessariamente non dovrà nemmeno subire movimento alcuno. Necessariamente. E diremo che l'uno il quale in nessun modo è, neppure è immobile. Una cosa che sta infatti immobile in un medesimo luogo deve pur sempre essere e dunque in qualche luogo. In un medesimo luogo, come no? Così dunque, diciamo che l'uno che non è non sta immobile né si muove. Diciamo sì. Ma neppure nulla di quanto è a lui appartiene. Se ne avesse parte, parteciperebbe pure all'essere. Manifesto. Non dunque grandezza, né piccolezza, né eguaglianza in lui sono. No, certo. Neppure simiglianza, né diversità sarà a lui, né rispetto a sé, né rispetto agli altri. No, chiaro. Senti un poco. È possibile forse che gli altri siano qualche cosa per lui, dato che nulla per lui vi è? Non è possibile. Gli altri dunque né sono a lui simili né dissimiglianti, né identici né altri. No, certo. Senti ora, sarà forse possibile per una cosa che non è adoperar parole di questo genere, di quello oppure qualche cosa o questo o di quello o di altro o ad altro o una volta o poi o ora? E ci sarà opinione, o sensazione, o ragionamento, o nome, o qualsivoglia cosa di cosa che non è? Non ci sarà. Così dunque, uno non essendo, non ha determinazione alcuna. Certo non diremo che ne abbia alcuna, sotto nessun rapporto. Ottava ipotesi. Ancora una volta dunque, dobbiamo dire, uno se non è. Gli altri, in quali condizioni saranno? Sì, diciamo pure. Altri, certo, debbono essere. Se infatti non fossero nemmeno altri, non si parlerebbe nemmeno di altri. Dato invece che il ragionamento si svolge sugli altri, essi sono un'altra cosa diversa. E non adoperi per il medesimo concetto tanto la parola altro quanto la parola diverso? Io sì. E diciamo che una cosa diversa è diversa da un'altra cosa diversa, e parimenti diciamo che l'altro è altro da altro. Sì, quindi se gli altri debbono pure essere altri, ci dovrà essere qualche cosa di cui saranno altri, necessariamente. E quale sarà mai questa cosa? Altri dall'uno non potranno essere, dato che uno non c'è. No, certo. Saranno dunque altri reciprocamente. Questa sola possibilità rimane. O dovranno essere altri di nessuno. Giusto. Molteplicità a molteplicità, dunque. In questo senso, ciascuna massa è altra da un'altra. Non potrà esserlo in rapporto all'uno, il quale non esiste. Ma la massa di ciascuno, come pare, è indefinita per moltitudine. E se anche si prenda quella massa che sembra più piccola, subitamente, come sogno nel sonno, invece di essere una come sembrava, ecco, appare indefinita. Invece d'apparire piccolissima, enorme, per rapporto alle parti in cui ciascuna massa si immilla. Giustissimo. Gli altri dunque saranno altri reciprocamente, ciascuno essendo massa nel senso che abbiamo spiegato. Soltanto così si concede essere altri, dato che l'uno non esiste. Senza dubbio. Dunque, non vi saranno forse molte masse che appariranno ciascuna un'unità, senza esserlo, dato che l'uno non vi sarà? Così, e sembrerà che ve ne sia un numero, dato che ciascuna vi è e che sono molte, indubbiamente, e sembrerà che ci sia fra quelle il pari e il dispari, senza esservi realmente, dato che l'uno non vi sarà, senza esservi, certo. E tuttavia, diciamo, sembrerà che ci sia anche l'infinitamente piccolo in mezzo a quello, ma apparirà molteplicità e grandezza rispetto a ciascuno dei multipli che appaiono piccoli in lui contenuti. Come no? Ma ciascuna massa apparirà uguale a questi multipli e a questi piccoli. Non potrebbe in realtà trapassare dalla sembianza del più grande a quella del più piccolo prima di pervenire, per sembianza, al punto intermedio, il che costituisce certo una parvenza d'eguaglianza. Crederei di sì. E non credi pure che ogni altra massa sembrerà avere un limite, mentre in sé non ha principio, limite o parte media. Come dunque? Perché ogni qualvolta si coglie con la mente ciascuna di queste parti, come fosse precisamente qualcuna, allora, avanti al principio, un altro principio sempre appare, così pure dopo la fine, un'altra fine ancora sempre rimane, e nella parte centrali, altre parti che più giustamente debbono reputarsi centrali e più piccole, e ciò per il fatto che non ci si concede cogliere quelle parti come un singolo uno. In realtà, l'uno non esiste. Verissimo. Quanto dunque esiste e si concepisce con la mente immillandosi, dovrà farsi, quasi diremo, a pezzi. In realtà, ogni massa sarà sempre concepita a prescindere dall'uno. È verissimo. E in tale condizione, se tu guardi di lungi e con occhio mal sicuro, quanto esiste dovrà necessariamente sembrare uno. Da vicino, invece, se lo consideri con ferma pupilla, ciascuno dovrà apparire indefinito per moltitudine, in quanto privo dell'uno che non esiste. Sì, è conseguenza del tutto necessaria. E non sembreranno forse eguali e diseguali? Come mai? Quasi quadro in prospettiva. Se ti poni lontano, ogni particolare ti sembra raccolto in unità, in guisa da introdurre una parvenza di identità e di simiglianza. Sì, indubbiamente. Avvicinati ora. Ecco, molteplicità e differenza. E siccome differenza è vano simulacro, soltanto parvenze la molteplicità e la differenza. Così. E quelle masse, necessariamente, dovranno apparire uguali e disuguali in se stesse e nel rapporto reciproco. Certamente. E così dunque, identiche queste masse e differenti nel loro rapporto reciproco, e toccantisi e nello stesso tempo tra loro staccate, e del tutto da ogni movimento addotte e immobili, e nasceranno e si dissolveranno, e non si troveranno né in questa e nemmeno in quella condizione, e si verificheranno tutte le altre opposizioni di contrari che ormai ci si concede facilmente ricavare se, non essendovi l'uno, la molteplicità tuttavia esiste. È verissimo, certo. Nona ipotesi. Ancora dunque, ritorniamo al principio e diciamo: uno se non è, che cosa debbono essere gli altri all'uno? Diciamo pure: intanto uno non saranno gli altri. Sì, come lo sarebbero, ma nemmeno del resto molti, perché dove esiste molti deve essere anche l'uno, e se nessuno di questi altri è uno, nemmeno la loro totalità esiste, e nemmeno quindi la molteplicità. È vero. E se non c'è uno negli altri, gli altri allora non sono né uno né molti. No, certo. E nemmeno hanno parvenza di uno e di molti. Perché? Perché gli altri non possono avere nessuna comunanza in nessun caso, in nessuna guisa, con nessuna cosa che non esiste. In realtà, una cosa che non esiste non può essere con una sua parte presente presso gli altri. Ciò che non esiste non può avere una qualsiasi parte. È vero. Dunque, non vi è opinione presso gli altri di cosa che non esiste, né parvenza alcuna. Insomma, per nessuna guisa, per nessun caso, ciò che non è non può essere opinato dagli altri. No, è un fatto. Se dunque uno non è, nemmeno si può formulare opinione circa qualsiasi altro, né che esso sia uno né che sia molti. A prescindere dall'uno, non è possibile concepire la molteplicità. Sì, è impossibile. Se dunque uno non è, gli altri nemmeno sono, nemmeno si possono concepire come uno o come altri. Non pare. E nemmeno similianti e dissimilianti, no, certo. E nemmeno identici e differenti, né contigui e disgiunti. Così pure, quante determinazioni abbiamo determinato dicendo che gli altri ne assumono parvenza, nessuna di queste determinazioni assolutamente appartiene agli altri, né gli altri hanno parvenza di assumerle, se uno non è. È vero. Non sarebbe forse retto il nostro giudizio se, in una parola, affermassimo che, se uno non è, nulla allora più è? Senza dubbio. Conclusione. E siamo giunti alla fine. Aggiungeremo, come pare, per concludere. Uno, tanto se è, quanto se non è, esso e gli altri, e l'uno in sé, e l'uno e gli altri, nel loro reciproco rapporto, tutti, in tutte le guise, sono e non sono, hanno parvenza e non hanno parvenza. Verissimo.